è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, Zanzara Party. Siamo qui, 800 24 00 24. Parenzo, dove sei? Sono a Milano, anzi ad Assago, per seguire questa diretta della Scala. Hai visto incidenti, tumulti di piazza? Che cosa c'è di nuovo? Tutto scontato, tutto scontato. Le sì, cose... tutto scontato, ma qui sta cascando tutto. Ma che sta cascando tutto? Ma falla finita con queste stupidaggini demagogiche. E soprattutto banali, perché in realtà che ci siano incidenti davanti alla Scala è una cosa che va in scena da non so da quanto tempo. Non c'è nulla di nuovo. Per cosa protestano? Non si capisce. Taglia la cultura. Le cariche, amico mio, ma le cariche, ma fanno bene a caricare, fanno bene. Io ho capito, fanno benissimo. Infatti, solidarietà ai 10 agenti feriti. Appunto. Dai, no, questo per carità. Però le proteste ci sono state, Le proteste più intense rispetto agli altri anni. Questo va detto. Ma sì, più questo va detto. Ma non lo so, non lo so. Da che cosa la valuti l'intensità? Da cosa? Amico mio, ma dal fatto che non c'erano soltanto i soldi. L'anno scorso, ad esempio, c'erano poche decine di persone. Quest'anno è stata una cosa molto più forte, forse perché c'è questo clima generale nel paese, no? Di protesta. Poi non so se sia giusto o sbagliato, questo è tutto un altro tema, ma dal punto di vista della cronaca, questa volta lo dobbiamo registrare, no? Voglio dire, le occupazioni sui tetti, gli operai. Vabbè, registriamo queste cose. Queste cose di una noia, una cosa noiosa, una noia mortale, la protesta di piazza, perché poi sono quattro gatti, i soliti quattro gatti. Beh, questa volta di quattro gatti, sempre quattro gatti. 800 24 00 24. Cosa hai cucinato? No, Zanzara Party. Partiamo con Zanzara Party, un po' di voce. Innanzitutto c'è la possibile decisione di Albertini di candidarsi a sindaco di Milano. Sarebbe davvero un big bang per la politica milanese, ma non solo per la politica milanese. In realtà ancora non c'è una decisione al 100%. Pare che Albertini abbia scritto una lettera ai famosi tre, che poi sarebbero Fini, Rutelli e Casini. Il contenuto di questa lettera lo conoscono solo loro, la cosa è un po' criptica. Insomma, pare... Però ci siamo, cioè Albertini abbia preso una decisione. Sentiamo. Ho già segnalato ai triumviri Fini, Casini e Rutelli la mia decisione, ma aspetto che siano loro a raccoglierla, a commentarla. Loro lo sanno, non sanno il merito, lo sanno loro. Io non anticipo il contenuto della comunicazione. Comunque loro lo sanno, l'ho spedita ieri, poi eventualmente renderemo noto il tutto, per cui... Salice, non stare lì così, mettiti comoda. Hai capito qualcosa tu? Beh, Albertini dovrebbe darsi una mossa, Albertini, non si può traccheggiare ancora i triumviri, la lettera ai triumviri. O uno si candida perché ha voglia di candidarsi, di mettersi in gioco, di fare il sindaco di Milano, oppure non è che poi la puoi tirare in lungo. I motori, ma è tutto in costruzione, no? Cioè, tutto dipende dal 14, tutto dipende tutto dal 14. Non c'è niente da fare. Anche la decisione di Albertini, se cade Berlusconi il 14, secondo questa la mia previsione, Albertini si candida, altrimenti è difficile. Va bene, andiamo a una vicenda epocale, la questione Grassano. Chi è Grassano? Se lo domanda la gente al bar, ogni sera, tu lo sai, Valenzo, no? È una... Grassano, sì, ho visto infatti anche le proteste davanti alla Scala, tutti avevano il cartello Grassano, dici che vuoi fa, e tutti si stanno interrogando, tutto il paese si interroga su quest'uomo. Ex leghista che la Lega non vuole più perché è stato coinvolto in alcune vicende scabrose, il quale è passato con i liberal democratici di Tanoni, Melchiorre, eccetera, eccetera, e adesso... Tanoni, Melchiorre, no. L'ex sottosegretario di Prodi, poi passato al centrodestra, ma sarebbe lungo spiegare. Lo stesso Grassano, il quale dice che voterà la fiducia Però secondo Pionati, che dovrebbe essere il suo nuovo mentore, comunque il suo punto di riferimento, si è eclissato. Sentiamo Pionati. C'è Grassano che non si sa, sì, Grassano ha dichiarato di voler votare la fiducia a Berlusconi, poi si è eclissato, non viene alla Camera da una settimana, sono questioni personali. Ah, si è eclissato, capisco, non viene più alla Camera? Sì, sì, capisco. Perché ha paura di essere tirato dalla non giacca. Non lo so, è un fatto personale, soggettivo. Chissà che direbbe Garibaldi. Garibaldi che direbbe, non so, certo, coraggiosi non è che di coraggiosi non se ne vedono più. Ma ti rendi conto, si è eclissato Grassano. Dove sei Grassano? Rincorriamolo per telefono. Voglio il telefono di Grassano, tutta che la puntata, meraviglia. Lo voglio rincorrere, si è eclissato. Pare abbia problemi con la fidanzata, così dicono. No, ma non è che il governo può dipendere. Il governo dipende anche, pare, dalla fidanzata di Grassano. Ma pare. Non è possibile. Non ti è possibile. Giuro, così è, così dicevano. O non era lui quello della fidanzata, era lui quello della fidanzata, Grassano? Sì, avevamo qualche puntata fa, lo avevamo raccontato, sì. Questa questione d'amore. Però... Poi l'avevo sentito per telefono, Grassano, ma aveva detto dopo insistenze, sì, d'accordo, poi ha chiamato su... Ecco qua, Grassano, sentiamo. Ah. Aspetta. Squilla, eh? Sì, squilla. Siamo al 2, Grassano, due chiamate. Due chiamate. Tre. Bellissimo, un grande momento di grande radio, eh? 4. Niente. Cioè, devi chiamare dal numero. Le sorti del paese dipendono da questa telefonata. Questa chiamata, cioè, tutti appesi a un filo. Appesi a Grassano. 5, famosa, 6, no? 5. Una telefonata allunga la vita, com'era? Sì. Niente. Allunga la legislatura oppure la fa finire in questo caso? Niente. 7. Devi chiamarlo dal numero sconosciuto. Ma è il numero sconosciuto, credo. No, ti spiego come si fa. Io una volta avevo una fidanzata, tantissimi. Solo che fa. Magari qualcuno gli ha detto: guarda, ti stanno cercando. E non mi voleva mai rispondere al telefono. Perché tu dici: eccolo qua, finito, niente da fare. Ha chiuso. Allora bisogna fare. No, ha chiuso. Che dopo 9 squilli, magari il telefono. Vabbè, no, ma i radioascoltatori, come si fa a fare la muta? La famoso numero sconosciuto. Ma non lo sanno, mica sono handicappati. Asterisco, cioè, mica sono 31 menomati. Asterisco e poi il numero di telefono, il numero sconosciuto. Svelo questo piccolo segreto per tutti i tuoi radioascoltatori. Va bene. Zanzara parti, la musica dove è finita? Me la togliete così? Franceschini, voglio Franceschini. Franceschini, ex leader del Partito Democratico, il quale pensa di essere nel 43, nel 44, nel 45, non so quando, pensa di essere ancora in un'epoca in cui bisogna resistere sulla montagna col fucile, e dice: bisogna fare resistenza come i nostri genitori. Ormai dire queste cose è banale, no? Uno passa per quello, sì, vabbè, ma questi ripeti sempre la stessa cosa, sono anti-berlusconiani, pensano che c'è il regime da abbattere. Vabbè, Franceschini. Le nostre madri e i nostri padri, quando andarono a fare la resistenza, non stavano sulle montagne a chiedersi gli uni con gli altri: tu sei liberale, sei comunista, sei democristiano, dopo sarai per la monarchia o per la repubblica. Prima liberarono il paese, poi cominciarono lo scontro e il confronto politico, e quella lezione dobbiamo applicarla oggi. Chiudiamo l'era Berlusconi e poi torniamo ad essere avversari che rispettano le regole. Ma ti pare normale a te? Vabbè, ma comunque, insomma, si può dire di tutto ormai, si può dire di tutto. Un fine pensatore. Lo può dire Di Pietro e non lo può dire Franceschini. Oh, come no? Chi gli ha detto lo può dire Di Pietro? Lui quando lo dice Di Pietro lo dice una stronzata. Come? Ma no, ma è una metafora, no? Ma che metafora? Ma che metafora? Quale metafora? Ricostruire un paese dove non c'è rispetto tra i due poli, non no, si rispettano no. Le regole. Bisognerebbe rispondere come Fallo Presti, va. Bisognerebbe rispondere come Fallo Presti. Questa è la realtà. L'unica risposta a queste cose è Lo Presti. Non me ne fotte una minchia. Uno dovrebbe rispondere così, invece io ancora mi interesso di queste cose, mi colpiscono, capito? Uno dovrebbe reagire in questo modo, come Lo Presti, e invece ancora mi toccano queste cose perché non capisco. Non capisco. Io, sai, con un nuovo mito, il mio nuovo mito è Zapatero. Zapatero? Zapatero, sì, Zapatero. Il governo socialista di Zapatero, imitando le maniere forti del generale Franco, leggo da Italia Oggi, ha dichiarato, ma è notizia di qualche giorno fa, lo stato di emergenza per piegare i controllori di volo spagnoli che in occasione del ponte dell'Assunta avevano bloccato i cieli. Lo stato di emergenza prevede la galera per chi non si presenta al lavoro. Zapatero quindi imita l'aborrito Ronald Reagan, che nell'81, per domare uno sciopero selvaggio dei controllori, ne licenziò 11.000 su 17.000. Lo sciopero spagnolo si è concluso subito con un rotondo fracoso, un totale fallimento. Che ne pensano Bersani, Bendola e la Camusso? Zapatero è un rinnegato o ha perso la testa? Nuovo mito per la Zanzara, Zapatero. Piero Ricca, buonasera. Io mi mando a fare culo. Ecco, sì, ci ha mandato a quel paese. È subito. Io li mando, io li mando a, eccoli lì. Ma come si permette? Vabbè, perché l'abbiamo tenuto troppo al telefono il signor Ricca, capito? Ah, oh, poverino, perché tanto paga la Zanzara, ma non ho capito, è veramente una persona arrogante. Si venga alla Zanzara a confrontarsi anziché mandarci a quel paese. Vabbè, ma lui no, pensava di non essere in onda, secondo me. Vabbè, pensava di non essere in onda, lui gira con quel manganello che è la sua telecamerina e quel manipolo di 7-8 persone che lo seguono. Il manganello, la telecamerina è il moderno manganello. Lui insegue questi politici con quelle domande retoriche, no? Forza, parla, allora Vespa, servo dei padroni, vero? Perché metti il perché la notizia è che Piero Ricca è andato l'altro giorno alla presentazione del libro di Vespa a Milano e è successo un bel casino. A molestare, sì. Un conto è andare lì, fare una provocazione, una domanda, ma un conto poi è rimanere lì un'ora a rompere le balle quando c'è della gente che giusto o sbagliato ma è andato lì ad ascoltarlo. Cioè, è questione di civiltà proprio. Intanto un ascoltatore scrive: ho letto su un blog che Parenzo aprirà la Sovia serata di Bologna cantando Bella Ciao e Contessa con Travaglio no, e Fo, ormai no, è un integrato. Sì, ma ricevo ogni giorno messaggi di questo tipo. A questo punto ti invito a cantare Contessa direttamente, perché così questo ascoltatore sarà rafforzato nella sua convinzione che tu sei integrato non so a che cosa. Contessa, integrato Parenzo nulla, canta Contessa. Che roba, Contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero. Quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati. E quando è arrivata la polizia, questo è un passaggio bellissimo, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte. Chissà quanto tempo ci vorrà. Ma è previsto anche questo strazio durante la serata di Bologna? Ma assolutamente no, non è, è una serata dibattito, di spettacolo e informazione con volti noti del mondo dell'informazione. Beh, adesso dibattito e informazione mi pare un po' troppo. È una serata organizzata, sì. Non dico che tu fai parte organizzata dell'Italia dei Valori, no, una serata militante anti-berlusconiana. Una serata militante anti-berlusconiana. Ma non è una serata militante. Una serata militante anti-berlusconiana. Ma non c'è niente di male a essere militante anti-berlusconiani, no, dell'Italia dei Valori o affini. No, non ti sto dicendo che lo sei. Presenti però una serata che ha questo timbro, sì, questa caratteristica. Insomma, certo, sono previste personalità che, voglio dire, non sono di spiccano. Nessuno è dell'Italia dei Valori, lì tolto Di Pietro. Voglio dire, c'è una persona come Travaglio, può piacere o non piacere, ma è un giornalista, non ha un'appartenenza politica, iscritto a un partito. Cioè, siamo persone che vanno lì a ragionare, a discutere. E vabbè, insomma, il tema è chiaro, il Bunga Bocomelli, il tema della serata qual è? Il titolo è così, come dire, il dittatore del Bunga Bunga. Ho capito, ma insomma, di quello si parla. Chiamatemi Ricca, su, voglio sentire il telefono, pare che sia spento. Chiamatemi Ricca, voglio Piero Ricca, quello che rispondi, che cos'è che fece Ricca? Tirò una cosa addosso a Berlusconi? Cos'è che fece? Insultò Berlusconi? No, non tirò niente a Berlusconi. Disse buffone a Berlusconi. Ma è spento, vedi, senti, è spento. Team, free message. Ha spento il telefono. Traffico. Perché che ne so, traffico. Incredibile, incredibile, caro Parenzo. Intanto sempre 800 24 00 24. E a chi mi dice reazionario, hai detto che i cerellini fanno bene. Certo, fanno bene a usare i manganelli quando c'è bisogno di usare i manganelli. Io sono sempre dalla parte dei cerellini proletari piuttosto che dei borghesi snob che vanno a protestare in piazza. Non sempre sono borghesi snob. No, ma però, sto generalizzando. Sono i precari che guadagnano 1000 euro. È certamente una visione molto pasoliniana, la tua, molto che mi piace, pasoliniana, molto pasoliniana. Ma valeva negli anni 60. Vale 70. Anche adesso, un po' vale anche adesso. No, comunque, no, al di là di questo, mi pare davvero incredibile il modo in cui Matteo Renzi viene trattato in queste ore da alcuni esponenti del Partito Democratico. Cosa ha fatto di così strano Renzi? È andato a trovare ad Arcore il presidente del Consiglio Berlusconi, che fino al prova contraria, fino al 14 di dicembre, è il presidente del Consiglio, dunque tiene in mano i cordoni della borsa e decide molte cose, tra cui per esempio, di concerto con il ministro dell'economia Tremonti, il finanziamento degli enti locali, i provvedimenti sulla finanziaria, eccetera eccetera, per chiedere dei soldi per Firenze. Poi avranno parlato magari anche di politica più avanti, se ci riusciamo, ma è molto complicato, lo chiameremo in diretta. E è stato attaccato, non si può andare a parlare con Berlusconi, non si può andare ad Arcore, bisognava andare a Palazzo Chigi, in un luogo istituzionale. eccetera eccetera. Ha parlato con il mostro, lo stanno attaccando da tutte le parti, è come Berlusconi. Devo dire che il Cavaliere ci ha messo del suo, perché ha detto: Renzi mi assomiglia molto, oggi c'è stato un titolo di Libero un po' maligno, rottamiamo insieme il Partito Democratico, insomma il rottamatore e il caimano che si incontrano. Renzi l'ha spiegato in questo modo: io sono uno che rifiuta il conflitto ideologico, mi piace molto il confronto pratico, poi se la buttiamo in politica sono uno di quelli che vuole cambiare pagina e cambiare l'esperienza delle destre, ma finché questo è il governo io lavoro con questo governo. Dov'è il punto? Qual è il punto? Civati, altri che sono intervenuti, Giorgio Merlo, altri esponenti del Partito Democratico dicendo: io non l'avrei fatto e comunque non l'avrei fatto in quella sede. Una cosa di una ideologia, di un estremismo, di una non lo so, non so come giudicarlo. No, ma Renzi ha fatto bene, è un pragmatico. Solo ma cosa doveva fare? Cosa doveva fare? Infatti ha fatto benissimo, nessuna critica. Ora però dovrebbe fare il passo oltre, no? Inutile che continui a friggersi dentro questo partito. Tu dici candidarsi al leader del Partito Democratico. A questo punto deve fare ancora il passo. Sì, ma anche secondo me, Comunque, ancora Renzi su questa vicenda. Non c'è nessun tipo di somiglianza su questo, però credo che sia un gesto di rispetto a quello che Berlusconi ha fatto per la nostra città. Ora vorrei vedere se dalle parole si passa ai fatti. Era Renzi che diceva: io non somiglio a Berlusconi. Vabbè, sti paragoni che vengono fatti, assomiglio a Berlusconi e non li capisco. Anche di Vendola l'hanno detto, il Berlusconi Vendola, voglio una sigla di Vendola, mandatemi una sigla di Vendola, vi prego, perché ho una cosa da dirvi, una spettacolare rubrica che credo da oggi o da qualche giorno sul Foglio di Claudio Cerasa. È la terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Niki, ma che stai a dire? Questo è il titolo della rubrica, che riprende, anche se chiaramente non è ispirato alla rubrica della Zanzara che ogni tanto mandiamo in onda quando diciamo: ma io non capisco cosa dice Vendola. E più o meno questa rubrica di Cerasa sul Foglio è simile. Devo dire, ci sono delle chicche spettacolari. Per esempio, oggi le primarie sono come il bambino che si porta all'orecchio la conchiglia per ascoltare il rumore del mare. Sono il rumore della vita. Niki Vendola, la sfida di Niki, Manifesto Libri, pagina 1, riga 1. Ripeto, perché se voi si capisce che le primarie sono tutto, perché naturalmente Vendola nasce con le primarie. Però la metafora è questa. E dunque, Vendola, ma che stai a dì? Le primarie sono come il bambino che si porta all'orecchio la conchiglia per ascoltare il rumore del mare. Sono il rumore della vita. Paolo, provincia di Modena, buonasera. Buonasera. Dica. Cruciani, visto che sono un suo assiduo ascoltatore, le davo un suggerimento per risolvere tutte le sere tutte le discussioni che ci sono con gli ascoltatori che la definiscono irritabile. A Modena c'è un'antica trattoria che si chiama Trattoria da Hermes. L'oste, che è una persona simpaticissima, sì, all'entrata c'è un cartello dove definisce l'umore dell'oste e ci mette varie dichiarazioni: agitato, estroverso, tutto quello che vuole che gli faccia per me. Bellissimo. La stessa cosa lei potrebbe fare, giustamente, ogni sera, dichiarandosi cosa si sente alla sera, in modo tale che i vari ascoltatori sanno come orientare le loro chiamate, perché in effetti ci deve essere che mi passi il termine. Anche i stessi ascoltatori veramente se la prendono con lei in un modo un pochino beh, Parenzo, non è male questa proposta, potrebbe dire le cose che sono loro, che cioè secondo lei dovrei dichiarare Paolo, scusi un attimo, dovrei dichiarare all'inizio della trasmissione: guardate che oggi sono un po' irascibile, il mio umore. Ma attenzione, è una roba scherzosa, voglio essere ma lo so Paolo, come anche l'oste che gli ho citato, Hermes, è una persona molto gentile. Magari però lo chiamiamo quest'oste, che ristorante è, Paolo? Che ristorante è questo qua? Trattoria da Hermes Bologna, tra l'altro è citata anche nella guida dell'Arcigoro, si mangia anche molto bene, ovviamente tipico modenese. Però certo. le do il tratto dell'oste, è un oste che se uno va a mangiare, se non mangi tutto, si arrabbia e non poco, quindi vuole che tu mangi da il primo, il secondo, il giusto, persona gentilissima, però non vuole sentire ragioni, per essere molto. Vabbè Paolo, ci rifletto su questa cosa. Ci rifletto. Grazie, grazie. Marco da Bologna, buonasera. Marco? Sì, buonasera, mi sente? Sì, la sento. Non la sento più. Maria Teresa da Roma. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, Maria Teresa da Roma. No, innanzitutto vi voglio fare i complimenti che almeno ci fa passare una mezz'ora prima di parlare, ci fa fare un po' di risate, per cui va benissimo così. Ci vorrebbero giornalisti come lei. Vabbè, Maria Teresa, però andiamo al sodo perché devo dare la linea al giornale radio. No, le volevo dire soltanto questo. Riguardo, ho sentito Renzi che è andato da Berlusconi, perché è una persona intelligente, anche se di sinistra, ha capito che Berlusconi forse è la persona che sicuramente gli portate. Vabbè, Maria Teresa, adesso non faccia l'elogio di Renzi perché no, è andato da Berlusconi. Io sono di Berlusconi. Ma la cosa assurda, Maria Teresa, la ringrazio, la cosa assurda è che qualcuno rifletta su questa cosa o comunque parli o si agiti perché Renzi è andato da Berlusconi a trovarlo. E allora qual è il punto? Giornale radio 800 24 00 24. Siamo qui alle 19.15, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta alla Zanzara. Abbiamo Lanfranco da Vicenza, Anselmo da Bologna, però prima sentiamo i titoli del TG3. Alla Scala, proteste e scontri in piazza tra studenti e polizia prima della Valchiria di Wagner, applausi. Julian Assange, il super ricercato fondatore di Wikileaks, è stato arrestato a Londra, respinta la richiesta di libertà su cauzione. A sette c'è sempre muro contro muro, Fini, Berlusconi si dimetta prima, ma il PDL insiste, nessun passo indietro. Torna libero il giovane marocchino accusato del sequestro di Yara, continuano le ricerche vicino alla ditta del padre della ragazza. Dopo il no tedesco, Tremonti a Bruxelles difende la sua proposta sugli eurobond e su possibili correzioni ai conti pubblici, dice vedremo. 3 mesi fa a Pollica l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, oggi il figlio al TG3 dice contro la camorra un muro di persone. Sara Pelin, ex governatore dell'Alaska, icona repubblicana, nel suo reality show in TV sorgono gli animalisti americani. Bene, 19.16, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Siamo qui alla Zanzara, fra poco gli ascoltatori, audio del giorno, direi di andare a Bocchino versus la Russa, via. Berlusconi disse, guardate, io ho un problema, il giornale perde 25 milioni di euro all'anno, mi sono scocciato di dare 25 milioni di euro ogni fine anno a mio fratello per coprire le perdite del giornale e quindi essendomi scocciato mi hanno convinto Santanchè e Sallusti che con l'operazione Feltri noi recuperiamo i 25 milioni e io risparmio 25 milioni. È finito che doveva risparmiare 25 milioni, poi ho visto dai conti che ha risparmiato una decina soltanto e rischia di perdere il governo perché voi ad un certo punto, anziché prendere di punta gli avversari di Berlusconi, avete deciso di prendere di punta Fini perché così vi eravate svegliati e così avete deciso. Ancora la Russa versus Bocchino, ti piace tanto stare in TV, adesso le foto sul giornale. A proposito della polemica su Libero. Quando uno parla dell'avversario definendolo un dittatore sudamericano con la bava alla bocca. Mi pare che non ci sono più le dittature proprio che il dialogo sia interrotto. La bava alla bocca è quella dei giornali che sbattono la mia foto in prima pagina con l'indirizzo dicendo andate ad insultare. Tu sei d'accordo? No, io non sono d'accordo, ma non faccio giornalista, io faccio politica. Il giornalista può scegliere anche di mettere la tua foto. Ti piace tanto stare in televisione, ti ha messo anche sul Libero, sarà mica la fine del mondo. Scusate. Questa è fantastica. Ti piace tanto stare in televisione, te l'ho messo la foto sul Libero. Ancora, ancora Bocchino la russa. Dopodiché, se andiamo al voto, andiamo al voto con tre coalizioni. La coalizione di centrosinistra, noi diremo agli elettori ci sono due centrodestra. Quello di stampo sudamericano con la bava alla bocca e quello invece quello di stampo europeo, stampo, non bello, di uno stampo con la bava europeo, alla bocca e l'altro con la bava e a bocchino. E quello invece di stampo europeo che pone tutta una serie di questioni che sono, sono le stesse questioni che vengono poste in Inghilterra, in Francia, in Germania e in Spagna. Vi rendete conto di qual è la discussione? La discussione è la destra con la bava alla bocca, invece dall'altra parte ci sarebbe la destra pulita, quella europea, moderna. È una cosa, che solo a pensarci è pazzesca la banalità di questa roba qui. La russa, a proposito di Belpietro, il gesto di Belpietro non è un problema, c'è libertà giornalistica. Secondo te, un politico che c'è la sua foto e dice vuole prendere una posizione contro chi l'ha eletto, è una notizia che un giornale può decidere di mettere, di non mettere. Io non l'ho messa, io non faccio il giornalista. Che vedere paglia, non c'è nessuno a izzare. Medaglia d'oro. O perché pensi rimasto, che non lo sapessero che tu sei contro il governo Berlusconi? L'ha scoperto. Cioè, quindi per te è una cosa paglia, che va bene. Vedere ti ho già spiegato, non d'oro è importante. Valore militare. La zanzara parti piatto forte, siamo noi. Ma sì, insomma, in questo caso sono d'accordo con la russa, non è importante. Qual è il problema della campagna giornalistica di Libero? Un politico se ne dovrebbe fregare. Di Pietro, il 14 riscriviamo la storia dell'uomo e cita anche il Vangelo, il 14 come il momento epocale in cui tutto potrebbe succedere, bisogna riscrivere la storia dell'uomo e il Vangelo. Bisogna leggere il Vangelo, lì c'è la storia dell'uomo, cioè un Giuda che la sera prima ti bacia e il giorno dopo ti tradisce. C'è la storia dell'uomo. Ecco, noi il 14 di dicembre in Italia, nel nostro piccolo, riscriviamo la storia dell'uomo. E poi una delle frasi del giorno, perché Franceschini lo devo rimettere. Franceschini, bisogna fare la resistenza come fecero i nostri genitori. Le nostre madri e i nostri padri, quando andarono a fare la resistenza, non stavano sulle montagne a chiedersi gli uni con gli altri: tu sei liberale, sei comunista, sei democristiano, dopo sarai per la monarchia o per la repubblica. Prima liberarono il paese, poi cominciarono lo scontro e il confronto politico, e quella lezione dobbiamo applicarla oggi. Chiudiamo l'era Berlusconi e poi torniamo ad essere avversari che rispettano le regole. E poi, per chiudere, prima degli ascoltatori, i radicali. Cosa faranno i radicali? Uno di essi si chiama Mecacci. Non dice io voto la sfiducia, sono stati eletti nella lista del Partito Democratico, dice deciderò dopo il discorso di Berlusconi. Per serietà politica io quello che voterò il 14 lo stabilirò anche dopo aver sentito il Presidente del Consiglio. No al voto in bianco, sempre Mecacci. Se bisogna dare un voto in bianco contro Berlusconi e per non si sa cosa, è chiaro che noi ci tiriamo fuori, perché non siamo un partito di potere che è interessato semplicemente a sostituire Berlusconi con qualcosa d'altro che non conosciamo. Bene, ascoltatori, 800 24 00 24, alle 19.30 tornerà Parenzo, non vi preoccupate, alcuni si scaldano, meglio che non ci sia Parenzo. È così, la minestra è questa, o vi piace o non vi piace. Non richiamate Piero Ricca, sarebbe un grande incontro con Parenzo. Alle 19.30 ci riproveremo, caro ascoltatore che ha mandato questo messaggio. Intanto rivoglio il numero di Grassano, rifatemi il numero di Grassano. Anselmo da Bologna, buonasera. Buonasera Cruciani. Ascolti, io volevo intervenire su Berlusconi e poi volevo intervenire anche sulla sinistra, mi spiego. Sì. Per quanto riguarda Berlusconi, che io ho votato due volte, sì, e credo che sia oggi impresentabile, impresentabile sotto diversi punti di vista. Un attimo, Grassano. Sì, pronto? Pronto? Onorevole Grassano. Chi parla? Finalmente la trovo, Cruciani. Cruciani. Come sta? Siamo ancora vivi. Siamo vivi, resistiamo. Sì. resistiamo. Senta, ha deciso cosa fare? Pionati dice che non la, da una settimana che la sta cercando, lei non si fa vedere. Pionati? No, sì. Pionati non mi ha mai telefonato. Eh beh, lui ha detto ad Agorà che è una settimana che la sta cercando, lei non si fa vivo, è alla Camera, non ha deciso sulla sfiducia, sulla fiducia. Ma no, perché la Camera è chiusa, cosa devo fare? No, ma la Camera è dintorni, diciamo, no. Vabbè, senta, ma ha deciso se votare la fiducia o no? Non la sento. Ha deciso se votare la fiducia? Ah, ma io non rilascio dichiarazioni. Non rilascia dichiarazioni. Nemmeno sulla fiducia, ha votato, non la vota, niente. Non rilascio dichiarazioni. Non rilascia dichiarazioni. Ma è una cosa così complicata decidere se no votare la fiducia no o la sfiducia? No comment. Non rilasciamo dichiarazioni. Mi hanno imposto di non rilasciare dichiarazioni. Ma chi gliel'ha imposto? La sua fidanzata? Chi gliel'ha imposto? Ma è vero che dipende anche da un suo litigio con la fidanzata oppure quelle sono questioni private? No, quelle sono questioni private. Non c'entra... Guarda che la mia fidanzata si incazza poi. Lo so. Quella non guarda in faccia nessuno. Ma si arrabbia anche che quando? Perché si dovrebbe arrabbiare? Perché si dovrebbe arrabbiare? Perché lei non è un soggetto pubblico, quindi non vuole essere messa in mezzo in queste cose, giustamente. Giustamente. No, per carità, non la tocchiamo la fidanzata. Pensavo che c'entrasse qualcosa con la sua decisione, ha capito? No, non c'entra niente. Senta, perché no comment? Però uno come lei no comment, questo mi stupisce. No comment. Ma che, da cosa dipende la sua fiducia o la sfiducia? Oggi Calearo sul Riformista faceva un prezziario, non è che dipende dal prezzo, no? No, per carità, no, assolutamente. E da che dipende allora? Cioè, il fatto che lei voti la fiducia o la sfiducia? Da qualcosa dipenderà. Solo da se stesso oppure dal fatto che deve parlare con Berlusconi o con qualcuno? No comment. E quando parla? Mi promette che parla per la prima volta alla Zanzara, qui alla Zanzara, sì? Prima o poi parleremo. Prima no, o poi? Per la prima volta. Ho già parlato anche altre volte lì. Lo so, la prima volta, quando prenderà una decisione? Io... Quando posso parlare parlo volentieri. Lo so. Quando non posso parlare che... Ok, ma che cosa le impedisce di parlare? Mi dia un'indicazione, perché qui è una roba quasi da Sherlock Holmes, da Pantera Rosa, da Peter Sellers, insomma da giallo, Sa cos'è che mi impedisce di parlare? Cosa? No? Il divertimento che mi danno tutti i giornalisti a cercarla. Questa. Più i giornalisti mi cercano e meno io parlo. Questo è straordinario. E più mi diverto. Questo deve essere straordinario, Grassano. Straordinario, mi diverto come un pazzo. Perché la cercano, lei non risponde al telefono, se risponde dice no, li tiene sulla corda, no? Li tiene lì sulla corda. Ma sai che è una cosa incredibile, io da solo che tengo sulla corda tutti i giornalisti nazionali. È una cosa da morire, c'è cioè una cosa da gode come un pazzo lei per questa cosa qua. Ha proprio ragione, godo come un pazzo. Lo so, è così. E per cui dipende solo dal suo umore. Cioè, un giorno quando questo godimento è finito, parlerà. No, non è che parlerò. Io sono abituato a parlare poco e a fare i fatti. Infatti. Ma non ho capito, ma come non parlerà lei? Se no chi parla? Ho detto, io sono abituato a parlare poco e a fare i fatti. Ho capito, ma chi parlerà? Chi annuncerà? Perché, scusi, io le faccio riascoltare quello che ha detto, perché ho qui un file pronto, quello che ha detto Pionati. Pionati ha detto, io non, credo che sia l'altro giorno, quando è stato? Oggi, stamattina. Io Pionati è 20 giorni che non lo vedo. Per cui ha rotto con Pionati ormai, le possibilità che lei entri nel gruppo di Pionati sono zero. No, io non è detto. Sto questi giochetti, non interessa. Pionati è un amico ed è una brava persona. Però senta che ha detto, ha detto che lei si è eclissato, io lo faccio sentire un attimo. C'è Grassano che non si sa, sì, Grassano ha dichiarato di voler votare la fiducia a Berlusconi, poi si è eclissato, non viene alla Camera da una settimana, sono questioni personali. Ah, si è eclissato, capisco, non viene più alla Camera? Sì, capisco. Perché ha paura di essere tirato dalla giacca. Non lo so, è un fatto personale, soggettivo. Chissà che direbbe Garibaldi. Garibaldi che direbbe, non so, certi, ma coraggiosi non voglio neanche immaginarlo. Di coraggiosi non se ne vedono più. Beh, ha detto che lei non è poco coraggioso, ha sentito? Ma non è vero, Pionati... Pionati purtroppo non sa della mia vita e quindi non può. Poi ognuno. Io sono coraggiosissimo. Non sono venuto alla Camera perché lunedì e martedì c'era il consiglio comunale d'Alessandria, dove io sono anche consigliere d'Alessandria. Ma questo lo sapevamo. Avevano dove avevano assolutamente bisogno del mio voto per far passare il bilancio, perché se non andavo non passava il bilancio. Sì. E quindi mi sono fermato ad Alessandria a votare il bilancio, tutto qua. Tutto qua, niente di particolare. Ma però anche Pionati le porto la giustificazione se vuole. Sì, ma no, a me non c'è bisogno che la porti la giustificazione. Io sono un uomo di mondo. Però voglio dire, Grassano, sempre restando il no comment, perché la risposta è: lei ha deciso di votare o no la sfiducia, la sua risposta è no comment, giusto? Esatto. No comment, dunque da lì hanno non ci... Hanno detto di non rilasciare dichiarazioni. Ma chi gliel'ha detto? Chi? Questo vorrei capire. Chi gliel'ha detto? Berlusconi? Mi hanno detto di non rilasciare dichiarazioni e io non rilascio dichiarazioni. Non rilascia dichiarazioni, vabbè. Però mi sto divertendo molto. Lo so. E noi con lei però, nello stesso tempo, perché lei dice che i giornalisti la fanno divertire, ma anche i giornalisti si divertono con lei, non creda? Vabbè, certo. Deve essere reciproca la cosa, se no il paese non so se si diverte, però vabbè, insomma, è un dettaglio. Vabbè, ma il paese, guardi, il paese, no? Sì. Le posso dire una cosa? Mi dica come? Allora, non il paese, ma tutto l'indotto paese. Se al posto che tutti cercare me si mettessero d'accordo tra di loro, non sarebbe meglio? Ma d'accordo tra di loro, lei che dice? A chi si riferisce? Tra tutti quelli che stanno litigando. Cioè dice il problema, lei dice il problema alla fine non sono tra di loro, sarebbe meglio, no? Ma lei dice non sono io il problema, no? Figuriamoci. Ma appunto, non sono io il problema, cioè io non telefono a nessuno, non ho cercato nessuno. Qualcuno l'ha cercata invece? Nessuno. Bossi nemmeno, con Bossi ormai è rotto lei. O no, ma Bossi l'ha chiamata per convincerla per caso? Una volta aveva detto se me lo chiede Bossi, invece no, manco Bossi. Niente, non mi ha cercato neanche Bossi. Manco Bossi. Lei proprio non si vuole esporre, niente, no comment, non dice nulla, non tiriamo fuori nulla. C'ho già tante grane per i fatti miei. Ecco, appunto, ma per chiudere poi la lascio in pace, Grassano. Sì. Però, allora, ma io tanto con lei ci posso stare ancora 2 ore. Lo so, però il punto fondamentale è un altro, perché anche nella frase prima di Pionati, no? Si capiva che in realtà forse c'è qualcosa di personale sotto, cioè ha i suoi problemi, mettiamo uno spartiacque, cioè i suoi problemi personali, se poi lei ce li ha, non c'entrano nulla con le sue decisioni politiche, oppure sì? Non ho capito. I suoi problemi personali, se lei ce li ha, perché prima Pionati faceva capire che in realtà lei tutto dipende anche dai problemi suoi personali, no, non c'entra niente. Ma non c'entra niente, cosa c'entra? I problemi personali con la politica non c'entrano niente. Si è lasciato con la fidanzata, no. No, assolutamente no, per carità. Vabbè, Grassano, la ringrazio molto. Grazie, a presto. Mando poi la cassetta quando la manda in onda. Come no, certo, per carità, subito. Ciao. Arrivederci. Non me ne fotte una minchia. Questo era Lopresti. Ieri, a proposito della pubblicazione sul Libero della lista dei cosiddetti traditori, che ancora suscita discussioni, come avete sentito prima nella disfida tra Belpietro, anzi no, tra La Russa e Bocchino. Anselmo, mi scusi, ma dovevamo intercettare per forza il signor Grassano, dalle... Ecco. Le sorti del paese dipendono anche da Grassano, come lei sa. No, ma infatti, ecco perché le volevo chiedere come si chiamasse, Grassano. No, onorevole di altissimo profilo. Altissimo. Però non mi offenda troppo il signor Grassano. Che... No, per l'amor di Dio. No, ma è una bella gara tra lui e Pionati, veramente una bella competizione. No, però scusi, Pionati che c'entra adesso? No, è perché è amico di Pionati, da quello che ho capito. Ma no? L'intelligenza di Pionati non è in discussione. Non mi rovini tutti i nostri miti assoluti di quest'ultimo periodo. No, ma guardi, Leo è bravissimo a provocarci, ma va bene così. Mi dica tutto, Anselmo. Ascolti, Cruciani. No, volevo parlare appunto di Berlusconi. Guardi, io non so se lei se ne è accorto, ma vede che Berlusconi in questo ultimo periodo, diciamo da un anno e mezzo, 2 anni a questa parte, secondo me è uscito fuori di testa, ha perso i lumi della ragione, ma per tante cose. L'elenco sarebbe infinito, ma telefono in questura per una 17enne prostituta e dice che è la nipote di Mubarak. Ma ne ha fatto questa è roba vecchia, Anselmo, su. Ma è roba vecchia, vabbè, comunque è roba vecchia. Ma no, vabbè, lei la può commentare, ma è roba già di qualche settimana fa, insomma. è di qualche settimana fa, però, cioè, voglio dire, e gli arbitri di sinistra, e non mi ricordo la mafia, c'era un complotto contro di lui da parte della mafia, ma guardi che, ripeto, se ne possiamo fare una bella collezione delle cavolate che ha cominciato a dire e purtroppo soprattutto a fare. Infatti, guardi, secondo me il fatto che Fini abbia preso le distanze, ma guardi che questo è umano e secondo me anche politicamente giusto. Ma lei chi ha votato? Lei chi ha votato l'ultima politica? Io ho votato, l'ultima volta ho votato Veltroni, l'ultima volta, Beltroni, però io Berlusconi l'ho votato due volte. Precedentemente. Vabbè, secondo lei ha perso ormai la testa, Fini fa bene a distanziarsi, eccetera, eccetera. Ho capito. Ma secondo me sì, ma fa bene, ma guardi che tra tutte le cose io avevo uno zio fantastico che poi invecchiando è andato fuori di testa. Ah, proprio lei le fa una questione quasi clinica, direi. Ma io sì, ma secondo me sì, ma perché Berlusconi sta dando segni di squilibrio, ma questa è la mia opinione, sì, e certo, secondo me non è più un premier affidabile, sotto diversi motivi. Poi volevo dire anche una cosa sulla sinistra. Dica. Io condivido con lei le opinioni che esprime sui leader della sinistra, perché dicono delle stupidaggini. Per esempio? Ma guardi, da Bersani dicono e fanno, da Bersani che sale sui tetti, Franceschini oggi è eclatante, cioè, ma dico, Di Pietro poi secondo me si potrebbe fare una tesi laurea sulle stupidità che dice. Purtroppo questo è il problema della sinistra e quindi sono invotabili perché manca un vero leader. Renzi? Ma guardi, Renzi diciamo che ancora è nei ranghi. Renzi è papabile, insomma. Renzi è papabile, ho capito. Ma Renzi, tutto sommato, Renzi è papabile. Però vede, purtroppo un attimo solo, Anselmo, non è che possiamo fare monologo. 19:40 800 24 00 24. Parenzo è tornato. Ma chi era questo politologo? Vabbè, adesso non insultare subito l'ascoltatore, perché che male ti ha fatto, Anselmo? Diceva delle cose anche ragionevoli, più o meno. Sì, ma ho detto politologo. Pensavo che fossi subito ironico, per carità, va bene tutto, anche l'ironia. Io spesso la uso, non dovrei essere io, diciamo, a redarguirti su una cosa del genere. Senti, ma ti sei perso un momento però eccezionale della Zanzara. Mi sono arrivate decine di messaggi che hai trovato Grassano. Esatto, abbiamo trovato Grassano. Devo dire questo è magnifico. Però devo dire con un piccolo trucco, un trucchetto, Grassano ci perdonerà, perché sennò altrimenti non si poteva più andare avanti così, perché sennò se uno doveva concordare l'intervista con Grassano ti diceva no comment, non voglio parlare, e no, stavolta l'ho fregato io. Stavolta l'ho fregato io. Intanto Zanzara Party, come base Zanzara Party tranquillamente. Mitici Ridillo, è un po' di tempo che non lo diciamo. Zanzara Party ormai è diventata la sigla immarcescibile della nostra trasmissione. Voglio ringraziare i Ridillo che mi hanno mandato anche i loro ultimi dischi, sono sempre nel nostro cuore. Prima o poi, quando organizzeremo, la cosa non dipende da me, verranno qui in questo studio a passare una serata con noi, caro Parenzo. Grassano. Come lo hai tanato? L'ho tanato chiamandolo, l'ho rincorso col telefono, c'è tutto, mi ha risposto. Credo che non sapesse di essere in diretta, anzi sicuramente. Lo sai perché? Guarda come si è conclusa la telefonata, conclusione della telefonata. Grazie, mi mandi poi la cassetta quando la mandi in onda. Mandi la cassetta? Sì, perché pensavo fosse registrato, però insomma devo dire che alla fine non sarà dispiaciuto. Sai cos'è? Ho capito tutto da questa non intervista, in realtà. Perché ha detto che, primo, qualcuno gli ha detto di non parlare. Che qualcuno abbia detto a Grassano di non parlare. Ti giuro, così. Così. Ma chi è che vuol chiudere la bocca a Grassano? Non lo so, qualcuno gli ha detto stai zitto fino probabilmente al voto di fiducia. Stai zitto, non rilasciare dichiarazioni. E la seconda cosa, ha detto che sta ridendo come un pazzo, si sta divertendo come un matto, perché evidentemente lo tormentano ogni giorno i giornalisti per avere interviste, cose sulla decisione che deve prendere, e dunque ha detto io mi sto divertendo come un pazzo, cioè sto godendo come un assatanato. Sa cos'è che mi impedisce di parlare? No? Il divertimento che mi danno tutti i giornalisti a cercare, e più i giornalisti mi cercano e meno io parlo, e più mi diverto, straordinario, mi diverto come un pazzo. Ma sai che è una cosa incredibile. Io da solo che tengo sulla corda tutti i giornalisti nazionali. Godo come un pazzo. È la frase più bella della Zanzara, credo, da un mese a questa parte. Adesso la utilizzerai sapientemente da qui al 14, capito? Beh, certo. 19.43, 800, 24, 00, 24, fra poco ascoltatori e fra poco avremo anche un esponente di punta del Partito Democratico che ci spiegherà molte cose, speriamo. Signor Fioroni, ex ministro della pubblica istruzione. Dato in uscita dal prof Cacciari. E appunto, con cui ci collegheremo in contemporanea, dunque preparati. Anche sì. a questa doppia intervista. Come sai, Cacciari, no, te lo voglio ricordare, giusto così per impostare l'intervista con il signor Fioroni, Cacciari ha detto Fioroni e Letta usciranno dal Partito Democratico a breve, insomma cercheremo di sapere qualcosa in più dallo stesso Fioroni. Dove andiamo? Giampiero da Firenze, buonasera signor Giampiero. Buonasera Cruciani. Come sta? È tanto che non ci sentiamo. E che ne so, io non mica mi posso, non posso ricordare di tutti. Vabbè, certo, è ovvio. Io la seguo dai suoi esordi. Passando, visto che siamo in tema di ironia, passando da forbici a lei. È una cosa eccezionale, pensavo, questa qua. Stappiamo lo champagne. Aspetti, Cruciani, aspetti. Pensavo di averci guadagnato. E invece ci ha perso. Non lo so, Cruciani, perché. Perso magari no, perso. No, magari. Ora proprio perso. Proprio perso, cioè, diciamo, non si può dire. Rispetto a forbice sarebbe gravissimo dire abbiamo perso. Adesso questo non lo posso dire io, lo dice lei. Esatto. Però, vede, quello che io le consiglio, Cruciani, è una persona molto intelligente. Mi dia un consiglio. Ma siamo in vena di consigli. Ma lo accetti. Lo prendo volentieri. E poi le do anche un'opinione su Renzi, che le potrà essere utile. Assolutamente. Che vuole che prima le dia l'opinione su Renzi? Partiamo con Renzi, non mi tocchi Renzi però. Non mi sia cattivo su Renzi. Si ricordi che Renzi non è un galletto del Mugello, ma è un pollo di batteria. Parenzo, l'hai capita tu che hai mezza famiglia da quelle parti? Sì, beh, una metafora che quindi sembra allevato, cioè non è ruspante, questo mi pare di capire. Questo vuol dire, Giampiero, ma la spieghi un po' sta metafora. Bravo Parenzo. Mi ripeta un po' questa cosa, non è un galletto mugellese, cioè ruspante, ma è un pollo di batteria. Galletto mugellese, sto segnando, galletto mugellese, pollo di batteria. Sto segnando perché sono cose, non sto scherzando, sono battute fondamentali che mi voglio conservare per giocarmele, me le posso giocare. Certo che se le può giocare. Galletto mugellese, pollo di batteria, eccolo qua. Pollo di batteria, che sono come dire l'uno contrario all'altro, ovviamente. Beh, certo, no? Certo. Certo, non lo so, immagino. Uno è un prodotto più industriale, l'altro è più artigianale. Esatto. Dunque, secondo lei che cos'è? Un galletto mugellese? No, è un pollo di batteria, cioè una roba creata così ad arte. Beh. Cioè, è una roba, un Berlusconi, tipo Berlusconi. Per quale motivo? Sempre è un uomo che si identifica col centro-sinistra, quindi non vedo perché dovrebbe essere come Berlusconi. Diciamo che esistono i polli a batteria anche nel centro-sinistra. Lui dice che è funzionale a un sistema. Funzionale a un sistema? Quale sistema? Mi scusi. Ne esistono moltissimi. Pollo di batteria, però insomma, pollo di batteria mi pare una cosa un po' offensiva, francamente. No, perché? No, vabbè, ma che vuol dire pollo di batteria? Mi spieghi dal punto di vista politico? Cioè, direi che voglio dire, Renzi è un uomo immagine. È un uomo immagine, ho capito, ma è un politico che sta amministrando Firenze, e bene o male lo diranno gli elettori. Non mi pare un uomo immagine. Era un uomo immagine quando partecipava alla Ruota della Fortuna. Si ricorda che partecipava alla Ruota della Fortuna? Certo. È un politico anche che non disdegna i media, apparire, ha fatto la maratona, si fa intervistare a destra e a manca, parla di qualsiasi cosa. Questo lo fanno tutti. Ma ho capito, se non fosse così non farebbe politica, secondo me. Questo lo fanno tutti, però. Vabbè, ma insomma, non ho capito se le sta simpatico o no. Direi che come il 99% dei politici mi è totalmente indifferente. Vabbè, totalmente indifferente. Vabbè. Poi, però ecco, quello che volevo dirle, e poi la lascio perché mi ha concesso fin troppo tempo. No, per carità, Giampiero, lei è una persona molto simpatica, anche se deve criticarmi. Adesso passiamo alle critiche nei miei confronti. Me le dimentico. Perché poi alla fine ci siamo simpatici, lei si dimentica di criticarmi. No, ma le volevo dire, Ecco, certe volte lei, Cruciani, sì, probabilmente lo fa ad arte, perché è un uomo molto intelligente, sì, ed è un uomo di grande cultura. Ma insomma, adesso non esageriamo. Beh, io sono come quegli ignoranti che non leggono mai i libri, dice, no? Sa come dice Tremonti, noi siamo gente di popolo che sì, non è, ma come no? Persone che non leggono libri. Ma certo, di questo ne sono convinto. Anch'io quando voglio far così dico che vengo dalla campagna, non è un problema. Ma insomma, ecco, mi dico. Cosa faccio di male allora? No, assoluta, Cruciani, voglio dire, in un paese come questo lei è il più innocente di tutti. No, sei innocente, ognuno ha i suoi vizi. Ma questi limiti sono della natura, non sono, certo. Allora, non insomma, sono... mi dica, cosa faccio? Io le direi certe volte, e qui è, se mi permette 10 secondi, sì, di non essere spesso troppo supponente. Ma sa, no, se uno qui non è supponente, ti mettono i piedi in testa, Giampiero. No, ma per l'amor di Dio, ma guardi, supponente in questo senso, voglio dire, certe volte, sì, siccome allora il centrodestra la bava alla bocca, dice Bocchino, sì, la russa dice il bocchino, la bava al bocchino, cioè voglio dire, sì, entrambi fanno veramente pena. Ma lo so, ma l'abbiamo detto prima. Entrambi fanno veramente pena. In queste espressioni, sì, in queste espressioni. E onestamente, guardi, io ne salverei ben pochi. Ben pochi. Vediamo se salva qualcuno che abbiamo nostro ospite. Resti con me, Giampiero, poi con lei ci sentiremo più avanti. Un esponente del Partito Democratico che qualcuno dà in uscita, non capisco perché, cioè, nel senso, magari ci sono le ragioni, ce le spiegherà lui, forse. Beppe Fioroni, buonasera, come sta? Viviamo che di questi tempi è già moltissimo. Molto, è molto di questi tempi. Senza, lei che è stato ministro della pubblica istruzione, no? A lei le hanno mai messo la... un po' di sterco davanti casa, no, per carità, non è mai successo, no? No, questo non mi è successo. L'unica cosa sgradevole che mi è capitata è che quei mansueti dei ragazzi della destra mi fecero un manifesto con una mia faccia già abbondante di natura, un po' più abbondante, crivellati di colpi di pistola, ma con scritto wanted. Addirittura, i giovani della destra, della destra universitaria o della destra di Azione Giovani. Azione Giovani, è una cosa così leggera. Abbiamo concluso tutto con un incontro e... Ma sa, insomma, i ministri della pubblica istruzione sono abituati, insomma, a prendere l'insulto. La fortuna dell'Italia e soprattutto della scuola italiana, sì, che comunque la scuola regge ed è seria a tal punto che sopporta qualunque ministro della pubblica istruzione, qualunque scemenza faccia. Questa è l'unica garanzia per il futuro del nostro paese, se no saremmo tutti veramente, al di là delle battute di Tremonti, tutti braccia sottratte alla terra. Allora, Parenzo, sai che abbiamo? È quello che dice che Fioroni fra poco uscirà dal Partito Democratico. Massimo Cacciari, buonasera! Che meraviglia! Cacciari, pronto? Un saluto, Cruciani! Sì, un attimo! Cacciari, mi sente? Cacciari, non mi sente? Non mi sente Cacciari, evidentemente la linea si è interrotta. Cacciari, pronto? Pronto. Professore? Pronto. Professor Cacciari? Pronto. Lo so, non mi sente, professor Cacciari? Ma sento benissimo. Ah, mi sente benissimo. Sono annoiato, stufato, stavo leggendo Kierkegaard. Kierkegaard? Kierkegaard, lo conosce o no? No, non lo conosco. Sì, lo conosco così. Fioroni, lei conosce Kierkegaard, sì, naturalmente, sa chi è, no? Sì. Le spine nelle carni, dai, Cruciani, forza, il ginnasio l'ha fatto pure lei. Andiamo avanti, forza, ma cosa vuole? Sì, facciamo soffrire così, però, perché sennò mi si lacera il cuore a sentirlo soffrire così. Lo so, il legno storto dell'umanità. Legno storto dell'umanità? Scusi, lei è una citazione da Kant, ma non avete capito niente, come sempre. Kant, raddrizzare Fioroni, il legno storto dell'umanità. Cacciari sa sempre. No, io purtroppo non ho capito neanche perché mi vuole per forza andare a sbattere fuori dal PD. Io glielo chiediamo, che dice, professor Cacciari, perché lei dice che Fioroni uscirà ha dal PD insieme a Letta. Come fa a essere così? Evidente, siamo di fronte a questi due poli si stanno squagliando al sole come neve fresca. Questa metafora la si può capire? Beh, o sì, no? Questa, anche sì, lei questa, la questa, può capire, questa, no? Diciamo, è abbastanza facile. Ad aprile non si va a sciare, d'accordo? E allora si sta questa, i due poli, fino a qui, fino a lo qui capisce uno anche come lei, Zanzara, sì, sì. Parti lì a ballare, Zanzara. No, no, no, questo l'ho capito. Ecco, i poli si sciogliono, e Fioroni che c'entra, scusi? E Fioroni, vede che è una persona moderata, di centro, sempre stato un democristiano, ha capito benissimo, ma ora non lo può dire, non è che va alla radio da Cruciani e dice abbandonando. No, magari lo dicesse. Ma non può farlo, non deve aspettare ancora un attimo, ma io sono sicuro, perché stiamo costruendo un'operazione incredibile a Milano, un nuovo cantiere, un terzo polo, si sta squagliando tutto. E dunque lei è sicuro di che cosa? Non lo dica così, lo chiediamo poi subito. Sono sicuro che questo nuovo progetto troverà l'attenzione di persone come Letta, Fioroni, e ce ne sono tanti altri. Tanti lei dice altri. Tanti altri, e chi sono? È inutile stare sui nomi, dice lei, fa sempre questa storia dei nomi. I nomi. E lei ha ragione. Dio dà i nomi alle cose, Dio dà i nomi. Come no? Dio dà i nomi alle cose. Non ha letto neanche la prima Bibbia, crea. Non ha letto neanche la Bibbia, sa, nella Bibbia c'è scritto che il Signore dà i nomi alle cose, i nomi. Sì, Cacciari, prima li crea. Prima li crea, come dice. E infatti abbiamo creato il problema è che il Signore li ha creati e gli ha dati i nomi. Il terzo polo non è dato in natura. Capito, Cacciari. Abbiamo creato in vitro, infatti, in vitro abbiamo fatto una seminazione eterologa e abbiamo creato in vitro il terzo polo, va bene? È un esperimento contro natura. Ha capito, Cacciari, qui la politica è una cosa, la filosofia i è un'altra. I poli sono contro natura, questo bipolarismo bastardo armato che da 10 anni conteggia. Questo l'ho capito. Vabbè, professor Cacciari, è stato chiaro, Fioroni e Letta usciranno da cosa. Allora, io voglio dire una cosa, Fioroni, ma al di là di Cacciari, quello che dice, eccetera, eccetera, questo terzo polo l'attrae oppure non esiste, non esisterà? Mi spieghi un po'. Io resto convinto che il Partito Democratico che abbiamo fondato nel 2008 era, e voglio continuare a lavorare perché sia, il soggetto politico in grado di cogliere il cambiamento di questo paese. Però vanno con Vendola, se lei è con Vendola... Noi stiamo lavorando. Un gran dolore per lei. Lavorando per impedire che il PD perda l'appuntamento con la storia per quale era nato. Certo, se il progetto del Partito Democratico diventa un'altra cosa, diventa partito di sinistra conservatrice superata, questo quando io siccome lavoro perché non accade, sono testardo, se dovesse accadere ne parleremo. Ma lei uscirà se ci fosse un'alleanza certificata Vendola, no, partito il problema non è allearsi con Vendola, il programma dice le cose non è allearsi con Vendola. Il problema è domandarsi se questo Partito Democratico che ha perso le elezioni amministrative, che ha perso le elezioni regionali, che ha perso le primarie, invece che prendersela una volta con gli elettori perché non ci capiscono e una volta con lo strumento delle primarie perché non ci fa vincere, forse in democrazia la cosa più semplice è cambiare linea e cambiare anche i soggetti chiamati a dover di volta in volta rappresentarci, ad esempio nelle primarie, per vincere, perché se siamo orgogliosi di essere il primo partito dell'opposizione dobbiamo avere pure un progetto di paese che presentiamo agli italiani e a quelli che stanno in giro dicendo che vogliono cambiare anche loro Berlusconi, dirgli questo è il progetto che vogliamo realizzare, chi ci sta ci segua, chi non ci sta è un problema suo, invece che girare. Allora Fioroni, io però le chiederò qualcosa, lei poi può ricominciare tranquillamente a viaggiare, poi la disturbiamo tra qualche minuto, dopo la pubblicità, perché incombe 800 24 0024. Eccoci alle 20 in punto, caro Parenzo, in collegamento da Milano, 800 24 0024, ci riferiscono che l'onorevole Beppe Fioroni, esponente del Partito Democratico, e lo ringraziamo per questo, è uscito da un locale, dunque si trova un po' al freddo, dunque lo tratterremo ancora per poco, non si preoccupi. Però abbondantemente difeso dall'Adipe, quindi non c'è problema. Senta, lei non è medico, è un medico tra l'altro, quindi si intende di Adipe. Ho avuto una notizia, Parenzo. Nella lettera ai tre, ai famosi tre, come li chiama Albertini? I triumviri, l'ex sindaco Milano Albertini pare che scriva: non ci sono ancora le condizioni per la mia candidatura. Dunque, completamente diverso da quello che si era si era pensato all'inizio. Ecco, ma ad esempio, io voglio chiedere a Fioroni se posso. Ma lui, se tra... Esatto. Se fosse milanese, se fosse un cittadino milanese, se, e si presentasse una triade così composta, Moratti, sindaco scende, Albertini e il Pisapia, che cosa farebbe il moderato Fioroni? Chi voterebbe? Ma guardi, io... Dica la verità, Fioroni. No, io parlo... La verità, nient'altro che la verità. Io parto da un presupposto che fa la differenza. Noi abbiamo partecipato alle primarie, che è uno strumento che ci siamo liberamente dati. Le primarie hanno dato il loro responso, il candidato è Pisapia, è una persona seria, rispetta le regole del gioco e non se gioca e poi perde, dice allora vado via e mi porto via i miei giocattolini, perché non si dà un'impressione. E questa è una bella risposta, devo dire la verità, è una bella risposta, perché uno poteva pure dire personalmente, diciamo la mia sensibilità mi porterebbe a scegliere, che so, Albertini nei confronti di Pisapia perché è più vicino magari alle mie idee, però uno sta in un partito anche se in una posizione, diciamo, ma di meno. Questo è qualcosa di più, non so se abbiamo scelto insieme di darci lo strumento delle primarie, ci abbiamo partecipato, è quello che l'ho detto prima. Sì. Io non me la prendo con Pisapia che ha vinto. E con chi? Ha vinto e me la prendo con noi che potevamo forse scegliere, dare un'idea. Cioè, non scegliere Boeri? No, diciamoci la verità. Se diciamo la verità. Diciamo la verità, la mia verità che è più semplice. Sì, ecco. Perché poi ognuno... Certo, la sua verità, con lei stiamo parlando. Io credo che il Partito Democratico è nato per fare un soggetto di centrosinistra, un soggetto riformatore che guarda all'intera società italiana. La vocazione maggioritaria non è fattuto da solo. Però Boeri, da questo punto di vista, è uno trasversale. Ma chi doveva candidare? Un politico? Non è un problema di candidatura, è un problema di profilo, perché se tu trasmetti il profilo di un partito che rinuncia volentieri ad essere di centrosinistra per diventare di sinistra, è chiaro che poi alle primarie cala l'affluenza, ci va meno gente. Ah, ho capito. Perché ci vanno i tifosi sono maggiormente di sinistra e scelgono tra i candidati. Lei dice che alla fine Boeri ha perso perché il partito si è spostato a sinistra. Interessante. Sostanzialmente diciamo che Boeri poteva vincere se c'era una partecipazione alle primarie di quel civismo e di quella complessità articolata della società italiana che non c'è stata, e ha risposto una parte importante ma limitata, cioè le primarie servivano a mettere insieme i tifosi e la gente che si sentiva coinvolta e che partecipava. Se diventano primarie solamente di tifosi, è chiaro che i tifosi si entusiasmano di più perché gli fa battere il cuore, e se i tifosi sono prevalentemente di sinistra, scelgono chi... c'ha il doc. Senta, Fioroni, ma mi scusi un attimo, ma però una cosa me la deve dire. Cos'è che deve succedere perché lei lascia il Partito Democratico? Perché si arrenda, diciamo, no, questa... Me la ponga così la domanda. Che cosa deve succedere? Perché così questa è la domanda di un giornalista, è questa qua, cioè nel senso, no, voglio dire. Io me la rispondo così. Se la rigioca in un altro modo. Ma io mi giro la frittata. Giri la frittata. Cosa deve succedere perché il Partito Democratico finalmente vinca qualche cosa? Questo lo sa solo, che ne so, Bersani, dovrebbe sapere il segretario. C'è una cosa, io ho presentato l'altro giorno una ricerca sulla quale hanno lavorato per più di un anno, come l'Italia che io chiamo profonda e laboriosa, cioè quella delle partite IVA, i professionisti, i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, la piccola e media impresa, l'imprenditore, il cooperatore. E quando tu gli chiedi la loro intenzione di voto, ti accorgi che il Partito Democratico va ultimo in quelle intenzioni di voto. E l'idea che noi trasmettiamo è un partito. Non si sente più. Che sembra ostile a quel mondo. Ecco, cioè, ostile al mondo della piccola impresa, ostile al mondo della. Non è vero, però il problema qual è? È che noi dobbiamo trasmettere un'immagine di un partito che vuole rifare un patto con quell'Italia profonda e laboriosa, senza la quale non si governa. E per poterlo fare. Noi dovremmo cercare di impedire, ad esempio, che tutti i giorni, ogni volta che c'è una manifestazione, una volta della FIOM, una volta della CGIL, e per giorni sui giornali ci maceriamo, chi ci va, chi non ci va, chi partecipa. Ma nessuno, perché uno mica deve essere obbligato ad andarci per forza. No, ma questo tipo di dibattito trasmette all'esterno l'idea di un partito dove, come dice il detto, la lingua batte dove il dente duole. In questo caso la lingua batte, scrive e fa i fax dove batte il cuore. Se noi diamo l'idea che battiamo sempre in quel pezzo di società, abbiamo rinunciato a essere quel partito che guarda... Vabbè, la mia traduzione però è questa, Fioroni, delle sue parole e insomma, della sua analisi. La mia traduzione, no, la traduzione è questa, perché poi bisogna essere chiari. Siccome c'è un signore, un personaggio che esplicitamente ha fatto un'opa sul Partito Democratico, questo signore si chiama Nichi Vendola, e questo signore dice certe cose. Se vuole gli dico l'ultima. Roma è stata assediata da una vera e propria tenaglia militare che ricorda altre epoche e altre capitali. Roma blindata e sequestrata come Santiago del Cile ai tempi di Pinochet. Questa è una cosa... A me mi dispiace solamente. Allora io dico una cosa. Posso dirgli una cosa? A me dispiace per la sensibilità di Nichi, che sa bene che non possiamo dare uno schiaffo a quei migliaia di martiri e di giovani che hanno combattuto per la libertà in Cile, paragonandole alle sciocchezze che capitano nel nostro paese, anche appunto. Possiamo criticare. Allora io voglio, siccome però Vendola è questo, è anche altro, però è soprattutto diciamo che Vendola può essere, io la dico così, Vendola non mi preoccupa se ci si allea con un partito forte, autorevole, orgoglioso. Okay, ma se quello vince però e se quello vince la primaria, lei che fa? Se noi fossimo questo partito non vince. Se noi non siamo il partito che abbiamo fondato, allora ma se vince le primarie, che succede? Lei esce? Ma io credo che Vendola le primarie non le vinca. Vabbè, mettiamo che Vendola vince le primarie, lei che fa? Esce dal Partito Democratico, sì. Io lavoro per farle vincere ad altri. Vabbè, mettiamo che vinca Vendola. Questo è come se io diciamo, guardi, gli do 13, 27, 17, le giochi sulla rota di Roma, se fa terno come li spende, ecco. Mi sembra che questo non fa parte della politica. Senta, l'ultima cosa, Renzi, perché tutti se la prendono con sto tutti? Insomma, alcuni se la prendono con Renzi, ma che va a trovare Berlusconi. Matteo è una furia della natura, che appunto come... dico vado da Berlusconi a parlare per Firenze e lo attaccano. No, non dovevi andare ad Arcore. Lei sarebbe andato ad Arcore. Sì, è una parte. No, io non sono mai andato ad Arcore, non credo di avere motivi per andare, ma non è quello il problema. È che il PD se la deve piantare e fare il festival delle marginalità, ma col baratro che l'Italia c'ha davanti, che tutte le famiglie italiane vivano, il nostro oggetto del dibattito è se Renzi fa un viaggio ad Arcore oppure no. Ma lasciamolo in pace, cioè, Renzi alla fine è uno che è arrabbiato perché il PD non vince, scuote l'albero perché non produce frutti. Il problema non è pigliarselo con chi scuote l'albero se gli fa un po' male, il problema è pigliarselo con chi l'albero lo coltiva tutti i giorni e non gli fa produrre frutti. Appunto dico, però Renzi forse era meglio che andava a Palazzo Chigi oppure anche Arcole va bene secondo lei? Guardi, è un dibattito inutile. Una cosa, uno che fa il sindaco, se Renzi ha portato a casa i risultati per Firenze bene, omnia munda mundis. Se non ha portato a casa i risultati e si è fatto via in giro a Berlusconi, era grave se si era fatto via in giro a Palazzo Chigi, più grave se si è fatto via in giro ad Arco. Lui... benissimo, molto chiaro. Lui però Berlusconi ci ha marciato un po' sopra. Berlusconi ha detto lei mi assomiglia. Certo, ci ha marciato Berlusconi un po' sopra. Che ma c'è più... feeling tra i due secondo lei? Un po' di feeling, cioè, ma è normale che sia così. Renzi è uno... Mi auguro solo che a Matteo non gli venga in mente di competere con Berlusconi nell'apparire e nella politica dell'effimero, perché ho stima di lui, non credo che possa fare questo. Però è un rischio, perché all'uomo piace apparire, è normale, all'uomo piace apparire, fino a chi non piace apparire, ma no, secondo me è meglio apparire piace a tutti, purtroppo è che il troppo apparire storpia e quindi fa danno, e quando sotto il vestito niente poi la gente se ne accorge, quindi a un certo punto il conto della sostanza te lo chiedono tutti. Vabbè, grazie Fioroni, grazie, buona serata, rientri al caldo, buonasera. Rientri al caldo, 20:10, pubblicità. Non me ne fotte una minchia. Parenzo, eccoci qui, beh stasera ottimo, no? Fioroni, un Fioroni molto simpatico, però insomma chiaramente non vuole mollare l'osso. Grassano te lo sei perso, non ha detto una parola sul suo futuro. Vabbè, ma è normale che sia così. Confronto anche diciamo a distanza con il professor Cacciari, l'ho sentito molto molto in forma, anche se un po' quasi disturbato, no? Perché stava leggendo, ho capito, di un Kierkegaard adesso. Sì, non i soliti filosofi. No, i soliti filosofi, la solita roba. Però ogni volta uno non è che lo chiama al telefono, può leggere i filosofi se sta. Ho capito, ma tu ti occupi di Grassano e intervisti il professor Cacciari, è lui, capisci? Ti dice un po', un uomo che ha avuto sì, a che fare. Sì, questo è vero, Platone, passare dici da Grassano, no? Occuparsi di Grassano. E come si fa a passare da Kierkegaard a Grassano, su via. I titoli della 7, sentiamo. Ah, tutto bene. La protesta anti-Gelmini e contro Italia della Cultura sceglie come bersaglio il simbolo della Milano della Cultura. Scontri con la polizia davanti alla Scala, dove va in scena la Valchiria di Wagner. 10 agenti contusi. Via libera del Senato al disegno di legge di stabilità, la finanziaria già approvata dalla Camera e quindi legge dello Stato, con i sì di PDL, Lega e Finiani. È l'ultima volta che votano insieme prima della fiducia. E sì, mancano 7 giorni al giorno del giudizio, nuove stoccate tra Finiani e maggioranza, ma dentro la facciata del botta risposta si lavora a numeri e scenari. Berlusconi è convinto di poter recuperare voti di fiducia alla Camera. Il pranzo del rottamatore Matteo Renzi a casa di Berlusconi è normale, dice il sindaco di Firenze. Abbiamo parlato della mia città, ma dal PD il coro è unanime. Hai sbagliato, potevi incontrarlo a Palazzo Chigi, dice Bersani. Julian Assange, l'uomo che ha messo in imbarazzo le diplomazie di mezzo mondo, si è consegnato alla polizia di Londra, accusato di stupro e molestie sessuali, negata la cauzione, resterà in carcere almeno fino al 14 dicembre. Il direttore del TG1 accusato di spese record, il capo struttura della terza rete sospeso per comportamento scorretto e Vespa che scrive una lettera per denunciare il clima difficile in cui è costretto a lavorare un moderato. Rai, di tutto, di più. È stato scarcerato il marocchino Mohamed Fikri, rimane indagato per omicidio e occultamento di cadavere, ma l'inchiesta sulla scomparsa di Yara, a 13 anni di Brembate, riparte in realtà da zero, in un paese che ha dato prova di sobrietà e buonsenso. Beh, devo dire, molto buoni questi titoli, molto buoni, molto buoni, un altro livello, un altro passo rispetto ai titoli, ma al di là del contenuto è proprio un'altra storia. Ha inventato un nuovo modo di fare il TG, poi, perché ha abolito il pastone, insomma, ha fatto delle innovazioni vere. Ma al di là dell'abolizione del pastone, insomma, non è che gli altri telegiornali avessero per forza il pastone, eccetera. No, ma anche questa idea di far commentare le notizie sempre a un giornalista, sì, di una, sì, certa, sì, area, una di un'altra, no? È un modo diverso di raccontare, plurale soprattutto, di raccontare le fatti. Sì, no, poi devo dirti che i titoli a me mi affascinano in maniera particolare. Uno potrebbe sentire solo i titoli e basta, insomma, direi che può, ma no, magari di questo mentale non è contento, però insomma, è come leggere solo la copertina di Kant, si rende conto, è uguale. Uno dice, ho letto Kant, dice, perché ho letto la copertina, ma ti pare un discorso da fare adesso? Scusi, adesso c'è stato questo inserimento del professor Cacciari all'improvviso. Mi avete chiamato voi, no, voi ho capito, chiamato, ho capito, professor Cacciari. Da mezz'ora, lo so, mezz'ora di Castellino, non sapevo che lei era in linea, a un certo punto abbiamo alzato un cursore e è rispuntato il professor Cacciari. Che lo dico io, guardi il cursore. Ma ha sentito Fioroni, ha sentito Fioroni. Ma, povero Fioroni, Fioroni, quello lì è un PD senza la S, ormai lo capiscono, no? È un PDS, hanno tolto la S, hanno riverniciato il simbolo. Però dice che lui ancora non vuole uscire. Lui dice non lo può dire, non lo può dire. Ma lo dice lui. Lo dice lui. Chi lo deve dire? Chi lo deve dire? No, appunto, che lo dice lui. Lo dice. Ho capito, ma chi lo deve dire? Lo dice. Non lo so chi lo deve, cioè, dire. Non è una domanda o un'affermazione. Non capisco mai quando parla lei, se fa domande o affermazioni. Non lo capisco. Scusi un attimo, professor Cacciari, però dico una cosa. Se lui lo smentisce, cioè lei vuole dire che Fioroni non è lui che decide? Anche no, se... ma non mi interessa, lo dice lui, vuol dire che è una cosa che dice lui, ipse, Fioroni, no? Ho capito, questo l'avevo capito. Capito. Dice, ho capito, ma rifà la domanda come prima, poi musica, zanzara, parti e non si discute più di niente. No, era il professor Cacciari, che adesso, con cui adesso chiudiamo, possiamo chiudere il collegamento, professor Cacciari, che c'è il traffico. Ma io vi ho già mandato a Remengo, come si dice a Venezia, a Remengo vi ho mandato, già da un'ora. Allora, perché è rimasto con la cornetta appeso, scusi? Ma la cornetta, ma ero in linea, non lo so. C'è la cornetta, scusi, sono rimasto indietro. Che c'è scritto là, su Kierkegaard, che c'è scritto, che sta leggendo su Kierkegaard? No, adesso sono passato a von Hayek. Von Hayek. Traffico, buona serata professor Cacciari, buona serata. Sì, buona serata anche a lei. Allora, caro Parenzo, un ascoltatore mi ha scritto: ma quanto prende Parenzo per la comparsata di Bologna? Ma non si vergogna? Ma non ha un po' di dignità? È vero che è succube di Telese? Ora dico, la risposta che si può dare a questo ascoltatore, secondo me, è questa. Non me ne fotte una minchia. No. Oltre a questo, no, ma ferma, non c'è da aggiungere altro. Quando uno dice è vero che è succube di Telese, quanto prende Parenzo per la comparsata di Bologna? Io rispondo sempre allo stesso modo, alla Lopresti style. Non me ne fotte una minchia. Pubblicherò i compensi su Facebook. Ma no, ma lascia perdere. Allora, no, un altro ascoltatore geniale ha scritto: Renzi ha scosso l'albero del PD. Chi è? Ah, sì. Ricca, attento. Rispondi, Ricca, dai. Aspetta. Che meraviglia. Piero Ricca. Pronto? Signor Ricca? Pronto? Sì, cercavo il signor Ricca. Il dottor Ricca sta cenando. Come sta cenando? Scusi, ma perché non risponde lui al telefonino? Abbia pazienza. In questo momento no, ma chi lo cercava? Sono Cruciani e Parenzo dalla Zanzara. Ah, per quel cesso di trasmissione? Sì, un cesso di trasmissione, sì, una cosa meravigliosa. Sì. Buono. Certo, cesso di trasmissione, vedo che lei la conosce la trasmissione, giusto? Sì che la conosco, conosco i conduttori. Conosce i conduttori, benissimo. Amo il trash, quindi conosco... Noi siamo molto contenti di questa cosa. Molto. Dai, venga con noi nello sciacquone, su. Venga con noi nello sciacquone, venga con noi, la prego, sì, venga con noi. Ma lei è l'assistente di Ricca? Pronto? Sì, dottor Ricca? No. No, chi è? Non sono il dottor Ricca. Ah, no, pensavo fosse una... chi lo conosce la voce del dottor Ricca? Mica è Berlusconi, mi scusi, abbia pazienza. Non è che si riconosce la voce di Ricca al volo, non è che... Ma si può disturbare in 5 minuti il dottore? Si può disturbare no? Il dottore oppure è impegnato in un convegno, su un simposio filosofico? Un convegno sui moderati in Italia. È impegnato. Certo. Sta molestando qualche altro convegno? Le può dire al signor niente? Pure gli assistenti di Ricca sono tutti uguali. Sono fatti nello stampino. Rimandalo, è quel cesso di trasmissione. Lo devo rimandare. Zanzara parti. C'è da godere a dei livelli pazzeschi. Francesco De Rimini, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, se non... E non c'è dubbio. Buonasera. E non c'è alcun dubbio. Francesco, dica. Buonasera, io chiamo solo per avere una domanda. Una domanda, sì. Solo. Siamo qui. Allora, vedo che ascolto spesse volte che lei è contrario a manifestazioni, scioperi o altre cose. Diciamo, qualche pregiudizio ce l'ho, diciamo. Esatto. Anche però, piccolissimo pregiudizio nei confronti delle manifestazioni, ma non tanto delle manifestazioni in quanto tali. Cioè, proprio degli effetti che possono portare. Però, insomma, questo è un mio difetto, Francesco, io lo confesso apertamente. Non sono ipocrita, è un mio difetto. Cioè, sono della convinzione che siano poi dei giochi di potere, di piccole minoranze, che poi in realtà non portano a nessun tipo di trasformazione importante nella società. Però insomma, ripeto, questo adesso non sto parlando di scioperi magari del passato, eccetera. Francesco, qual è la domanda? La domanda era semplice, secondo me mi piacerebbe conoscere una sua opinione. Sì? Che cosa bisogna fare per poter farsi valere i propri diritti, per poter segnalare che c'è qualcosa che non va. Quindi, se l'unica forma di protesta per un lavoratore o per chiunque fa valere i propri diritti è manifestare il proprio disappunto, qual è la sua, siccome quelle che dice lei sono tutte banali le proteste che accadono, ho detto che sono tutte banali, ho detto semplicemente se uno si incatena davanti è perché c'ha, non lo so, cioè bisogna anche distinguere, parliamo di una cosa concreta, Francesco. Le spiego, io in questi ultimi 2 anni nel mio ambiente di lavoro sta avendo un degrado pazzesco. Che ambiente di lavoro è, mi scusi? Francesco. Io lavoro nello spettacolo, sono un tecnico del suono. Con una buona esperienza. Sì. E faccio questo lavoro da diverso tempo. Sì. Con come freelance, come freelance, o è dipendente? Sono freelance, freelance da 30 anni. Quindi partita IVA e tutto. Adesso sono anche un, diciamo, sono un anarchico con le tasse, cioè voglio pagare tutto. Le pagherà le tasse, Francesco? Attraverso quale forma le paga? Molto inferiore, perché non ho nessuna categoria che mi tuteli, quindi sono costretto a fare un po' di fatture e lavorare molto spesso anche fuori fattura. Ah, cioè lei fa un sacco di nero, questo ci vuole abbastanza, dire. Quindi, hai capito, Parenzo? Oh. Questa è l'unica maniera per poter sopravvivere. No, no, sì, per carità, ma nessuno dice, perché non stiamo mica lì con la ghigliottina noi qui alla Zanzara. Ma le dico che la mia categoria è considerata, cioè io sono da lista della partita IVA, sono un giostraio, uno zingaro, uno che fa spettacoli viaggianti, cioè non esiste una professione riconosciuta. Quindi questo è detto tutto. No, non ho capito, lei fa il tecnico del suono o il giostraio? Non ho ancora capito. Io sono un tecnico del suono, ma io se mi devo registrare come partita IVA all'ufficio dell'IVA devo dire che sono un giostraio, cioè sono uno che fa spettacoli viaggianti, quindi la categoria è giostrai. Quindi l'ho detto tutto. Quindi sto vedendo ultimamente che nel settore dello spettacolo ormai non ci sono più diritti, cioè io l'ultimo lavoro che ho fatto anche ieri sera, la chiamata al lavoro è alle 8 della mattina e ho finito alle 6 della mattina e praticamente ormai sono tutti così. No, però Francesco adesso però non è il mio caso, però io non voglio parlare della mia categoria o meno, non mi interessa, però diciamo che questo qui potrebbe essere un esempio per mille altri lavori. Qual è secondo lei allora a questo punto? Ma io non so, francamente io non so di cosa sta parlando Francesco, perché da una parte mi dici io faccio tecnico del suono, non ho diritti, vabbè, insomma adesso su questo si può discutere, ma bisognerebbe capire bene la sua categoria, che tipo di diritti ha, che diritti non ha, insomma, che tipo di lavori si fanno, non lo so, mi sembra francamente che uno sciopero dei tecnici del suono sia qualcosa di surreale, insomma, però detto questo tutto è possibile. La domanda qual è? Siamo due minuti qua in collegamento, non ho capito la domanda. Che faccia qualunque tipo di lavoro, qual è la sua forma di protesta? Ma non lo so. Che può essere? Allora, Francesco, non si può criticare uno se va a protestare anche davanti alla scala perché lancia delle uova. O fa beh, insomma, adesso lancio delle uova. Punto per creare visibilità. Per creare visibilità. Non ne ha. No, ma sì, lei ha capito, perché sono andato a protestare. Chi è andato a protestare? Poi bisogna sempre vedere le proteste davanti alla scala, per l'inaugurazione della scala, come Parenzo sa bene. Diciamo, credo che sia una sorta di costante, non so quanto tempo. Sì, sono parecchi anni che non si molti sì, anni sì, però non si riuniscono in quell'occasione davanti alla scala. Tutto quello che è l'opposizione, diciamo, al cosiddetto sistema, ai poteri forti. Che ne so, un tempo andavano a protestare gli animalisti contro quelli che andavano in pelliccia, se non sbaglio, no? Poi a un certo punto quelli contro Berlusconi, adesso quelli contro Italia la Cultura, e poi quelli contro, che ne so, contro la Moratti o contro un sindaco di destra, contro la Lega, insomma, poi a corrente alternata, no? Di anno in anno si ripetono gli stessi riti istantivi, vecchi, la protesta davanti alla scala, uno non dovrebbe nemmeno parlarne, la protesta davanti alla scala, e che c'è di nuovo? È come la scala, è come l'inaugurazione della scala. Borsa, torniamo subito, Parenzo deve andare però. Allora, ci rivediamo domani, anche se è giorno di vacanza, ma noi ci siamo, no? Sempre con Zanzara Party, con Grassano and Company. Sì, domani avrò anch'io un assistente come il dottor Ricca. Sono l'assistente del dottor Ricca. A proposito, Ricca, tentiamo di nuovo prima di andare via. Tentiamo di andarmene adesso. Aspetta, ancora 20 e 28, aspetta un secondo. Ricca, un ultimo tentativo con Ricca, ma tanto vedrai che non risponde, farà rispondere a un suo assistente. Noi vogliamo chiedere a Ricca perché è andato alla presentazione del libro di Vespa a disturbare, tra virgolette. Era una domanda pertinente, dato che oggi Vespa ha scritto un articolo. Dato che oggi Vespa ha dato la sua versione sul Corriere della Sera. Vogliamo semplicemente avere da Ricca la sua versione. Sentiamo. Sempre quel cesso di trasmissione. Telefonino, dottor Ricca. Pronto? È sempre quel cesso di trasmissione qui. La Zanzara. Niente. Chi è? È sempre quel cesso di trasmissione, la Zanzara. Aspetta un attimo, si sente un tubo. Signor Ricca? Con chi parlo? Signor Ricca? Sì. Sono Cruciani, salve. Crociani, Ricca, mio amico, ma ho capito, ma ci ha insultato subito, ha detto quel cesso di trasmissione subito. Vabbè, la sua opinione, c'è la libertà di critica. Ho capito, però uno sa, apre il telefono, apre il telefono. Ragazzo, d'altronde non mi frequenterebbe se fosse ben educato, sai come siamo scostumatissimi, come mi diceva la mia preside al liceo. Voi siete scostumati. Ma anche noi, anche noi non siamo da meno, però insomma siamo un po' più così, siamo più civili, se no non sareste in radio nazionale tutte le sere, eh? Caro Ricca. Senta, facciamo una cosa, siccome Parenzo deve andare via stasera. Facciamolo andare. No, ho capito, però Bunga Bunga deve fare le prove a Bologna, Le prove del Bunga Bunga a Bologna, con Di Pietro. È un po' alla Ricca, si sta un po' di pietrezzando. No, Ricca Parenzo, ma è giovane, è un ragazzo, si farà. Hai capito Parenzo, sì. Io spero che sia il Vespa del 3000, sarebbe proprio idoneo a questo ruolo. Mamma mia, che Floris del 2500. Che entente cordial, che unione di spiriti, di cervelli. È molto in gamba mio. Con Parenzo, veramente riesce a condividere. Vabbè, allora, caro Ricca, si porta con tutto Parenzo. Benissimo, Ricca, facciamo così, siccome Parenzo come un paio di mutande. Ma lasciamo andare a Parenzo, perché lo trattiene, scusa. Deve andare via perché è impegnato la diretta. È come un paio di mutande sporche, vanno lavate, non vanno girate. Non le mutande. Io non lo sento qui. Allora, Parenzo, stai zitto un attimo. Ricca, facciamo così: diamoci appuntamento domani direttamente. Però non è che noi la chiamiamo, resta in attesa ma e poi ci manda. C'era il mio amico Elia, qui sta sulle balle, Parenzo. Ma lasci perdere Elia. Ma perché date spazio a Parenzo? Cioè, è inconcepibile che oggi si sulla radio nazionale si dia spazio a uno come Parenzo, che non sono esiste. Parenzo Ricca, non esiste, solo nel Bunga Bunga esiste. Se non ci fosse il Bunga Bunga, Parenzo non esisterebbe. Allora, io dico una cosa, Ricca, siccome prima, nel primo collegamento, però, lei era al telefono, ha aspettato 5 minuti e poi ci ha mandato a quel paese, l'abbiamo sentito noi, mica non l'abbiamo sentito. Proprio mentre la chiamavo, lei ha detto basta con questi qua. No, perché stavate dicendo una tale sequenza di cazzate. Posso stare in preascolto di queste cazzate per più di Mica è Berlusconi, Ricca, ma mica è Berlusconi, lei, ma chi è? Mica è presidente. No, ho diritto a chiudere il telefono a chi voglio. Dopo no, ma questo infatti non è di uno spettacolo di cabaret di quarto ordine, ma chi vi scrive i testi? Se volete, ma se che testi, Ricca? Ma allora cerca lavoro, amico mio. Cerca lavoro. Gli piacerebbe, Ricca. Ma per elevare la qualità. Meritano di più. Certo. Di questo Bunga Bunga culturale, fate cabaret di ottavo ordine. Ottavo ordine, sì, molto. L'ha mai detto? Ma guardi, ce lo dicono in parecchi, però sono anche parecchi quelli che ci ascoltano così per caso, per cui ma sa per divertirsi, perché si divertono alle vostre spalle. Appunto, si divertono, lo so, è quello il nostro obiettivo. Senta, Ricca, facciamo di voi, non ridono, ridono anche battute. Di noi, a noi va bene anche così, va bene anche così. Comunque lei perché mi ha chiamato stasera? Ricca, per la questione Vespa, però ci sentiamo domani, perché ormai non ho più tempo. Allora dico soltanto No, devo chiudere domani. Domani. Grazie, Borsa. Eccoci qui alle 20.37 per quest'ultima parte fino alle 21 della Zanzara del 7 dicembre qui a Milano è festa, nel resto d'Italia no, domani saremo comunque in onda. 800 24 00 24, sempre ascoltatori. Angelo da Torino, buonasera, poi Lanfranco da Vicenza, Michele da Milano, Francesco da Rimini che è ancora in onda. Francesco è sempre in onda con noi, non ho capito. Francesco no, ha chiuso. Chi voleva aggiungere? Volevo aggiungere, siccome stiamo andando in un periodo sempre di crisi, cioè dove nessuno riesce più a far valere i propri diritti. Lei dice, ma che è questa storia, nessuno riesce più a far valere i propri diritti? Ma chi l'ha detto? Ci sono i tribunali, se uno pensa che un diritto sia stato violato, ci sono i tribunali, i giudici, e c'è gli avvocati, di che parliamo? Francesco? Io sto ancora aspettando da anni di un lavoro che non ho preso e non li vedrò nemmeno più. Ma cosa, i soldi? Quello è un problema, certamente, se uno non viene pagato puoi fare causa. Comunque io non sto parlando di me. Sto parlando in maniera generale, cioè se uno per ottenere i propri, cioè per rendere visibile la propria protesta, deve rendersi visibile. Dove deve andare? Deve andare nei posti dove a tirare le uova alla scala. Vabbè. Ma no, e andare anche su una gru, interrompere per Sanremo, qualunque cosa è visibilità, come incatenarsi, è la stessa cosa. Ma quelle sono la maggior parte delle volte sono chiassate. Poi naturalmente non sempre, diciamo, in piccola percentuale, ogni tanto ci sono dei problemi seri. Francesco, la devo lasciare. Remo, provincia di Brescia. Originale, ma non è riuscito Francesco, la devo lasciare. Remo, provincia di Brescia. Buonasera. mi dica. Io raramente mi trovo d'accordo con quello che dice Franceschini, però sono d'accordo su quello che hai detto tu a volte, dicendo che cosa ha detto, scusi, perché le cose che dice Franceschini me le scordo facilmente. No, che i nostri genitori sono andati sui monti a combattere i partigiani. Vabbè, quello è un dato di fatto, beh, certo. Sì, no, dico che bisognerebbe rifarlo. Ah, bisognerebbe rifarlo. Lei, scusi, che mestiere fa, Remo? Io ho un piccolissimo ristorante pizzeria. Piccolissimo ristorante, gestione familiare? Sì, gestione familiare. Dunque lei lascerebbe la sua famiglia e tutto, oppure porterebbe con sé la famiglia per andare a resistere in montagna con i fucili? Io vivo già nel bosco. Quindi. Vabbè, lei vive già nel bosco, d'accordo. Ma a parte il fatto che lei vive nel bosco, lei lascerebbe la sua attività e tutto perché bisogna resistere contro che cosa? Scusi, no, per curiosità. No, e poi una cosa è dire queste stupidaggini, una cosa è poi farlo sul serio. Perché Franceschini poi ce l'ha fondamentalmente con Berlusconi, io invece ce l'ho proprio con tutti. Con tutti in generale. Con tutti. Cioè, tutti, secondo me, il Parlamento in generale, questo sistema di fare politica, questo modo qua, supponente di trattare sempre i cittadini come se fossero niente, fanno quello che vogliono, non tengono in considerazione i voti. Ma non è che quelle persone sono lì per grazia divina, cioè, quelle persone sono certo, lì. È proprio quello il problema. Ma no, non sono lì per grazia divina. Remo, scusi, lei è andata a votare? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Dunque ha espresso un voto, ha eletto qualcuno, anche se poi naturalmente ha messo il voto sulla lista, no? Immagino. Certo. Ha guardato chi erano i candidati in quella lista, no? Certo. Le piacevano? No, e perché ha votato allora? Non mi piaceva. E perché ha votato? Io ho votato per la Lega Nord. Ma perché ha votato allora? Ho votato perché pensavo e credevo che forse fosse venuto un momento che qualcuno potesse dare una voce anche alla povera gente, come sempre. Alla povera gente, d'accordo. Mai. Lei ha pensato, diciamo, ha votato pensando di dare fiducia a qualcuno, esatto, che magari poteva fare qualcosa per la sua comunità o per il paese, eccetera, eccetera. Si è pentito di quel voto della Lega Nord? Mi son pentito di aver votato. Ma ho capito, ma al di là del fatto di aver votato, siccome ha votato qualcuno, non è che ha votato in generale tutti i politici, ha votato la Lega Nord alle scorse elezioni politiche, immagino, no? Sì. Si è pentito di quel voto? No, del voto della Lega Nord no. No, dunque la rivoterebbe la Lega lei? Assolutamente sì. Beh, allora dunque non è che lei ha in odio tutta la classe politica, a lei piace la Lega Nord? Sì, mi piace la Lega Nord per le cose che dice. E allora, ma è deluso dalla Lega? In parte sì, perché sembra che si siano accomodati anche loro e non fanno più la lotta che dovevano fare per portare Italia. Come, già riesco a capire qualcosa di più, perché se lei mi dice io non sopporto nessuno, eccetera, no, è diverso, lei ha votato per la Lega, adesso è un po' deluso, però comunque diciamo che se si votasse domani rivoterebbe per la Lega, o sbaglio? Certo che rivoterei ancora per la Lega. Con un pizzico di delusione? Assolutamente sì, perché sembra che si siano accomodati, che non stiano portando. E invece che dovrebbero fare? Beh, innanzitutto il discorso del federalismo dovrò portare avanti con molta più convinzione. Gli alleati che abbiamo scelto, che hanno scelto, non sono all'altezza della situazione, se ne esce semplicemente. Perché non stanno facendo assolutamente nulla. Io credo molto in un paese federale, al di là dell'Italia. E la separazione? Quasi quasi anche, perché vedendo certe cose veramente mi viene il volto a stomaco. Quando penso a quello che siamo costretti a fare noi qui, e la situazione che si è trovato al Veneto, per esempio, tante cose che non mi tornano, che non mi capacito, probabilmente per mia ignoranza, non discuto, assolutamente, ma non capisco, però mi vedo proprio un discorso di un paese mosso non in due modi completamente diversi, ma addirittura in tre modi completamente diversi. Proprio non riesco a capire se siamo l'ultimo dei paesi industrializzati o il primo dei paesi sottosviluppati, insomma. Va bene, grazie a lei, buona serata, arrivederci. Allora, vi stavo dicendo di un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore. Renzi ha scosso l'albero del Partito Democratico, ha raccolto l'orecchino di Vendola, la dentiera di Bersani. Una battuta fulminante che mi ha fatto molto ridere durante l'intervallo. Cesare, provincia di Monza, anzi no, prima c'era Lanfranco da Vicenza, ecco qui. Lanfranco da Vicenza, buonasera. Dunque, volevo dirle, buonasera. Innanzitutto i politici hanno un grande merito, ci fanno sbellicare dalle risate. Da questo punto di vista, viva la zanzara, altro che cabaret. Poi mettete in luce aspetti della politica seri e meno seri, quelli meno seri però sono divertentissimi. Questo Franceschini che fa queste belle dichiarazioni resistenziali, oppure quell'altro, il Calderoli quando bruciava i cartoni, sono assolutamente dei comici. Poi, vabbè, comici veri sì, veramente o mancati, fanno ridere in fondo, hanno una funzione utile. Poi d'accordo, parlando di cose serie, la situazione, io sono un insegnante, poi non sono affatto scontento delle riforme, soltanto che mi rendo conto che per avere delle riforme reali e funzionali dovremmo veramente avere un paese federale. E da questo punto di vista la Lega, che si inventa la Padania, spara delle cavolate, però quando parla di federalismo fiscale fa un discorso serio. Poi la Lega ha dimostrato un'efficacia politica notevole, perché comunque ha portato avanti un discorso di federalismo che era dimenticato in qualche soffitta della Costituzione. Per cui io francamente con quel che si dice, io non ho nulla di particolare contro i vari Bersani, i vari Vendola, ma io tranquillamente da lombardo voterò Lega la prossima volta, perché se la Lega diventa un partito forte è su base territoriale, quindi non è ricattabile su base nazionale, poi ha i suoi limiti, non è che io, per dire, il citato Calderoli mi fa veramente ridere, no? Però il buon Bossi, anche con i limiti da post-trauma che ha avuto, è veramente un politicone da combattimento, cioè veramente un animale politico che ci sa fare. Vabbè, dopo questa galleria di personaggi, Lanfranco, come vogliamo concludere questo intervento? Concludo dicendo che non dobbiamo buttar giù sempre quest'Italia che va tutto male, non è vero, cioè abbiamo i nostri problemi ma abbiamo anche capacità e speranze e risorse, dobbiamo darci una mossa e andare a votare veramente. Buona serata a tutti. Va bene, traffico con questa questo schiaffo di buonismo che ci arriva dall'ascoltatore da Verona, Vicenza, non so che cos'è, me l'hanno cancellato. Venezia, andiamo al traffico. Eccoci qui, Luciano, provincia di Frosinone, poi Angelo da Torino, Michele da Milano e altri ancora, sempre 800 24 00. Buonasera, volevo esprimere solidarietà a Vespa. A Vespa, perché cosa? È un poverino, è un moderato che non riesce più a lavorare nella TV di Stato. Poverino lui, che ha la moglie che è un funzionario del Ministero della Giustizia, se non sbaglio. E che problemi ci sono, scusi? È un delitto avere la moglie che fa il magistrato? Non ho capito niente, Luciano, ha messo il viva voce. Michele da Milano, Cruciani, meglio, Luciano. Cruciani? Michele, dica. Buonasera, senta, a proposito dell'onorevole Grassano, mi diverte molto la sua posizione, però interlocutoriamente. Come, scusi? Chiedere, dicevo interlocutoriamente. Interlocutoriamente, le chiedere, per carità. Interlocutoriamente, è lecito o non è lecito, o comunque deontologicamente corretto, che un rappresentante del popolo, un deputato, non dia una sua opinione o si rifiuti di esporre la propria opinione circa una questione cruciale come la fiducia al governo? No, mi scusi Michele, ognuno può fare quello che vuole, se lui dice non vuole commentare, se vota la fiducia, se vota la fiducia o la sfiducia, sono affari suoi. Sì, d'accordo, però non può dirmi che lui si rifiuta di commentare la questione. E non vuole parlare della questione, ma ognuno poi è libero di fare quello che vuole, non è che un deputato è costretto a parlare, non sta scritto da nessuna parte. Un deputato ha l'obbligo, se viene interrogato, no, secondo lei deontologicamente questo ma che non sia è corretto, deontologicamente, non c'è nessuna deontologia, non è che è costretto a rilasciare interviste, se uno non vuole parlare, non vuole parlare, ho capito, di solito parlare è nell'interesse dei politici, se non vuole parlare, non vuole parlare, insomma, non mi pare una questione epocale, francamente, no? Cioè, secondo lei non è corretto che un deputato, quando viene interrogato circa una questione così importante, dica quello che pensa, o anche il fatto che non ha ancora deciso per le sue ragioni, voglio dire, perché questo non è che io non è che voglio dire che uno deve dire necessariamente ho Michele, deciso, non ho deciso, no, ma ho capito cosa vuole dire, ma insomma, cioè, a me fa ridere la questione, di solito è divertente, però no, ma lei ha ragione, un deputato, insomma, non dovrebbe avere problemi a dire voto in un certo modo, voto in un altro, e spiegare all'opinione pubblica qual è la sua posizione, al rappresentante del popolo, eccetera eccetera. Però ognuno si prende la responsabilità anche di non rispondere, cioè secondo me non rispondendo non ci fa una grande figura Grassano, per cui non mi pare sicuro, però il fatto che dica no comment, qualcuno mi ha detto di non rispondere, a mio avviso è una cosa grave. Bah, grave, insomma, adesso non esagererei sulla gravità di questa risposta. Michele, comunque la ringrazio per questa provocazione. Luca da Lucca, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Dica. Io volevo intervenire riguardo alla frase di Franceschini, che ha detto che bisogna fare fuori Berlusconi e poi dopo successivamente mettersi d'accordo per una legge elettorale, così. Potrei essere anche d'accordo, ma bisogna anche poi dopo capire cosa hanno intenzione di fare le varie parti politiche, perché mi sembra tutte le volte che vanno a parlare dei loro programmi politici non specificano bene le cose. È bravo. Cioè, nel senso, non esempio, posso fare un esempio perché non mi so esprimere tanto bene. No, lei si esprime benissimo. Esempio sul lavoro, noi bisogna fare qualcosa in più per il lavoro, per la politica, per la famiglia. E poi cosa concretamente cosa? Io guardi, sarò populista a dire così, però ho visto le busta paga dei miei cari, degli operai francesi, ho visto quanto prendono di assegno familiare, e è 450 euro. Cioè, nel senso, ora io non è che pretendo per forza quello, però nel senso io faccio ringraziando a Dio che lavoro in un'azienda che lavora, posso fare straordinari e faccio. No, ma lei ha perfettamente ragione, Luca, perché quando si dice, caro Luca, che uno poi sostiene, come molti dei cosiddetti terzopolisti oppure quelli del Partito Democratico, bisogna dare una svolta, un'altra politica economica, poi quando si va sul concreto non si capisce cosa propongono. Luca, devo dare spazio ad altri ascoltatori. Mi scusi, grazie. Dica ancora, se vuole aggiungere una cosa. Non c'è no, nient'altro, volevo solo. Grazie. Luciano, provincia di Frosinone, buonasera. Scusi, qua di nuovo. Eccoci, dica. Sì, la sento bene. Dicevo, io le volevo esprimere il concetto che di prima era un'ironia, nel senso che quel poverino di Vespa che non riesce a lavorare bene essendo moderato nella RAI di oggi, sì. Lui ha un magistrato, un funzionario del Ministero della Giustizia che gli garantisce tutti gli input necessari quando c'è da anticipare qualcosa. Vabbè, lui poi inaugura lì. Il prossimo sarà Minzolini, poverino. Lei dice, quando Vespa protesta e dice noi moderati siamo discriminati, il RAI dice una stupidaggine. Io mi sento piangere il cuore, scusi. Vabbè, ho capito, Luciano, ne parleremo domani. Angelo da Torino, buonasera Angelo. Luciani, buonasera. Dica. Senta, due commenti veloci su Renzi, visto che era l'oggetto della serata. Uno degli argomenti, sì, dica. Uno, un commento positivo è l'approccio che lui ha in questo momento, molto più easy, molto più friendly, sicuramente meno ingessato, tant'è vero che i grandi capi del PD lo stanno criticando. Però c'è anche un cartellino rosso, mi riferisco in particolare alla scorsa settimana, forse lei l'aveva anche citata questo aspetto, in occasione della partita Juventus-Fiorentina. Sì, certo. Dove chiaramente c'era stato... un approccio sicuramente un pochino troppo da tifoso e forse un po' meno da uomo pubblico. Ma insomma, per carità, a noi piace molto Renzi, però non è che sia, non è che la dica sempre giusta, la racconti sempre giusta. Ogni tanto ha delle scivolate pure lui, almeno secondo me. E quando le fa, uno ha il dovere di dirle, per quello che mi riguarda. Condivido, Cruciani. Senta, ma collegandosi un po' a questo, avevo voglia di farle una domanda. Ma lei da commentatore sportivo come si vede? Angelo, andiamo oltre, siamo agli inizi di qualcosa, vedremo. Rodolfo, provincia di Viterbo. Però. Rodolfo? Eccomi. Dica. Come sta? Non c'è male, devo chiudere però, per cui deve essere molto veloce. Le faccio una domanda e le chiedo una piccola cortesia. Lei che ne pensa dei personaggi che si piangono addosso perché li hanno minacciati di morte? Diciamo i personaggi che fanno un po' come Saviano. Beh, veramente, insomma, è una domanda mal posta. Che significa? Vabbè, quelli che si piangono addosso. Io non ne sono entusiasta. Il favore è questo: tolga questa cosa della morte, del povero. Che l'avranno fatto qualche minaccia per email. Ma è una cosa che ci portiamo dietro da un po' di tempo quando arrivarono delle minacce, ma noi la vogliamo esorcizzare, mica ci vogliamo prendere sul serio, Rodolfo, sia chiaro. Vabbè, ho capito, però le spiego. No, è una cosa penosa, questa è la sua opinione. Poi chiude, visto che siamo in chiusura. Dica. Quell'altra cosa di Sgarbi, cosa? Guardi che il Sgarbi come al solito dice fesserie e il gliela titolo, faccio sentire subito perché devo il titolo non è suo Cruciani, il titolo è di Sant'Almassi. No, se si sbaglia. Però non l'ha certo inventato lei. Assolutamente sì, si sbaglia, la ringrazio Rodolfo, l'ho inventato io, non invento molte cose ma questa l'ho inventata io. A domani 18:30.